attenzione, attenzione, stazione Pasqualino Settantenna. Piano, piano, piano, si va per tutto, piano. Eh beh, Eugenio. Ciao Marco. Aia. Oggi Natalino si sta piazzando l'antenna sul tetto. Con questo vento, mamma. Si è messo un po' di vento. E che ci vuoi fare? Adesso vediamo se sono riusciti a piazzarla. Sto aspettando che chiami. Quando ha finito tutto chiamerà. Si è più piazzata, ma con chi è? Con Claudio? Sì. Io sono stato male da Pasqua, quindi non sono potuto andare. Con Claudio e Massimiliano, che è bello forte. Ho capito, la va bene, vai. È tutto a capogiro, fastidio la luce, devo camminare piano. C'è problemi a cosa, la vista? No, non è una cosa lunga da spiegare, è una cosa ormonale, che poi prende così. Nei giorni a venire, dopo i vomiti violenti, viene se capogiro, devi camminare piano e dà fastidio alla luce, capito? Ho capito. Casino. Bene, cioè male. Tutta la Pasqua e Pasquetta mi è andata via, così. Era destino. Natalino, ci sei? Speriamo che il vento non gli abbia dato fastidio. Quando è stato già leggera, la mantella. No, più che altro per il vento, no, che non li abbia sbilanciati. O giù di lì, dai. Vabbè dai, dopo chiamerà. Io sono un po' sdraiato, dai, che qua c'è troppa luce e mi dà fastidio agli occhi. Rientro quando chiama, mi metto un paio di occhiali da cieco, quelli neri. Io Marco, intanto sto scendendo anch'io a mangiarmi una cosa, che la fame non ho ancora mangiato, dai, ci sentiamo più tardi, ok? A più tardi, ciao. Ciao. Se ce la fai, allora, morto sei. A me sembra che sei morto. Tu che ti ho visto mezzo morto alla processione. Ma la stanchezza che ti avevi in faccia, ma era di Dio. Avevi la stanchezza in faccia, ma c'era paura. Proprio per l'amor di Dio ti ammenavia. E anche questa è passata? No, che cosa? La bollette? No, non ci vengono. Troppa stanchezza. E tu sei arrivato a casa, ero un bel morto, meglio morto. Morto del tutto. Ma sono arrivato a casa in tutto di cazzo, ero morto. Mezzanotte era a casa, ero. Sì, ero a casa mezzanotte e mezza. Però ho iniziato 4 volte, dall'inizio. E ho fatto anche un mezzo filmino, ma un pezzettino, e qualche foto, ma tu eri stravolto di brutto. E il maestro Roberta, lì era entrata all'1:30. Tutti quanti erano passati di morti, là. Tu non avrei fatto ancora più nulla, detto che c'erano, boh, non so io. A un certo punto si vedevano delle file praticamente vuote. Ecco, quanta gente ci manca. Ah, la gente che se n'è andata, era tutta la stanza morta. Non mi accorgo, ma cosa servi? Non so cosa devo fare, a me un'ora e tu, e basta, non girare in mezza città, per carità. Certo che la gente si stanca tantissimo, perché ho visto tante donne anziane, così come io, che erano praticamente più là che qua. Era un veramente stanchi, ma stanchi a me, vabbè, va. Vuol dire che un giorno un paziente non c'entra più. ha fatto fuori tu, e basta, un po' di pellegrini e basta. Va bene, 9:30, sono tutti quasi 9:40. Tutto fatto, tutto a posto, Giuseppe, ciao. Come è tracciato? Tu ti devi procurare un bastoncino con una calamita, quando ti cade qualcosa la prendi, capito? Senza abbassarti. E te ne tieni una lì vicino alla baracchina, almeno quando ti cade qualcosa la studi e prendi, capito? E stai attento quando ti abbassi. Come mai? Si sente bene la voce, chiara e limpida. Ecco, in che senso? L'apparecchio, la fagliette, ho capito. Io ieri ero da mia sorella, capito? Claudio voleva un controllo, ma io non potevo. La macchina andava male perché Alghero da mia sorella non lo sento, capito? E vabbè, comunque va bene. A tasse di arrivi, sì? Sto dicendo che a tasse di arrivi, ti arrivi bene. E allora ancora niente? Guarda, c'è Franco, è entrato un attimo. Attento Marco! Allora, la voce è chiara, è molto chiara e pulita. Con il segnale 9:25, invece con l'altro mi arrivavi 9:30, ma poca cosa. Marco, ratta pignata, attento, sono ricubinato, ci sei? C'è una sorta, adesso ho un medico RM, chi è? Sei foto. Oh mamma mia. Vabbè, non mi ricordo. Mettere Eugenio, mi pare. Ehi, ero io, buonasera. Oh, mi sentite? Eugenio, tu sei, io sono un po' di QRM e non riesco a sentirti. Sono io. Come fa a non sentirmi? Va bene, un attimo, io riprendo subito, adesso sono la mia di autotrasporti, un attimo. Non ti ascolto, c'ho QRM, non riesco a sentirti, capito? Santiago, sei fisso, tu mi arriva più basso di 3, però non riesco a sentirlo, che palla. Questo canale io ho 3 fisso, c'è un rumore tipo una nave che sta partendo, invece sul 9 c'ho 0, niente, è proprio il canale che è quel remato. Eugenio, non lo so perché era in giro, poc'anzi mi sta parlando con Rata Pignara, con Marco sta parlando, mi sa che no, io non riesco a sentire, c'è questo QRM e basta, e se uno non supera quel QRM io non ascolto, speriamo che questo diminuisca, non lo so, va bene, Giuse, allora come va, tutto a posto? Va bene, dai, siete avverso, così voglio vedere con l'apparato, qua è vintage. E la pezza, dai, quando vengo lo vedo, dai, va bene? Beh, certo, io quando vado da qualche parte devo avvertire. Sì, non ti preoccupare, dai. Ah, perché sono sempre liberi, no? Vabbè, non ci sono un po' più. Quando devo venire già ti avverso. Ma ho detto del legno, c'è il contenitore in legno. Claudio mi aveva detto legno, vabbè non lo so, forse non. Se non visto in una fotografia mi sta da qualche parte. È un bel apparato quello. Capito. Comunque tanto che il microfono amplificato c'è, com'è? Però è più semplice da usare quello, no? Ma adesso vediamo, dai. Il microfono com'è, da palmo oppure da papo? Non la palmo, non è bene, no, è proprio chiara, modulazione, perfetta. Adesso la prossima cosa sarebbe l'antenna. Quello è Natalino, a Sassari, Natalino stai dicendo, quello di Sassari che abita nel centro storico. Sì, beh, certo. Mi sa che la stavo piazzando questo pomeriggio, mi sa, ho sentito poc'anzi Marco che diceva che la stavano piazzando, diciamo, oggi, no? Non stamattina, oggi. Dite, penso che più tardi Natalino entri, penso. Seia. Aspetta che c'era qualcuno. Marco, sei tu? Seia, sono io, dai, sì. Qua stavano piacciando, ancora non è entrato, dai. Hanno iniziato alle 3 di pomeriggio, adesso vediamo. Appena entra facciamo le prove. Ciao Giuseppe, ciao, ben sentito. Forse non mi sente Giuseppe. Seia. Un attimino che ho fatto uno spuntino, Un attimino ho fatto uno spuntino a base di uova e formaggio sopra. Una bontà, guarda. No, già ce l'ho basso quello. Sempre mangiato, sai. Come è pranzo questo? No, che ne sono? Sono le 5, che pranzo è? No, diciamo questo è un antipasto, poi pranzerò molto più tardi, verso le 8. Ah, ecco, sì, un antipasto, hai ragione, scusa, ma ok, va bene così. Ma c'è, questa antenna che si è anche colto, Massimiliano Bulldozer. Eia. C'è Claudio Massimiliano Bulldozer, io purtroppo non sono voluto andare per via di questo disturbo. Mi ha rovinato la pasquetta e la messa in opera dell'antenna, dai. Tutto, anzi, Pasqua, pasquetta, mi ha rovinato e tutto. Vabbè, dai. Le parole, guarda, le feste sono passate. Prometto, passate, adesso ci mettiamo a dieta, Io a dieta me la sono fatta, vabbè, mi sto rifacendo adesso, dai. Aspetta, le uova sono la cosa più buona del mondo, vero Eugenio? No, è sceso dalla macchina, dai, vabbè, già rientrerà dopo. Signori, io faccio una pausa, dai, appena entra Natalino entro io. Eglia, facci sapere quando entra. Io per il momento ho un po' di QRM, a un genio non lo sento perché lo copre, vabbè dai, se lo fai dopo. Tu prendi Giuseppe. Chi? Claudio. Boh, non ho ferrato. No, non lo sapevo che vendessero. Certo, non vicinissimo, lui non ha proprio negozi di alimentari vicini a lui, attaccati. Deve fare un po' di strada. E chi è che vende uova di Pasqua al Corso Trinità? Forse c'è un bar, ma giusto quello può vendere uova di Pasqua. Non ce n'è altri negozi alimentari, devi andare via a mercato per trovare negozi alimentari, Giuseppe. Eia, chi lo sa? Magari tempo fa, ma tu di quanti anni fa mi stai parlando? Quanti decenni fa mi stai parlando? Vabbè, a dopo, dai, a dopo. A dopo, Marco, dopo, dai, presto che devi fare. Ogni rumore forte. Adesso passa l'altra parata, perché con questo non sento niente. C'è un QRM forte. Domani passa a succedere. altrimenti non so, da uno se non le piace prendevo da va bene, così te sento un po' un altro palazzino guai, sarebbe disintegrato appunto, una valvola sicuramente sarebbe anche potuta partire perché il colpo l'avrebbe fatta vedi, ho resistito detto, devo resistere 60, ti do un controllo con quello, dai. Oh Marco, la radio non sta uscendo. Un bel amplificata. Ti stavo dicendo, sono basso basso mi avrò 10 watt. Allora, come a me mi ripete il segnale, stazione siamo 0, sono di 0, riporto 0, cambio. Allora, scusate, c'era la ruota di Alghero qua, poi chiedete controlli. Fai un passaggio da Tarifa. Guarda a vedere, anche Alghero mi serve. Attenzione, Alghero, poi tocca a voi. Dimmi, 930 radio? Allora, ho messo il baracchino che c'è il 960 come fondoscala. Natalino sta arrivando 9 più 45, come arrivi tu da casa? Ok, perfetto. Allora, ad Alghero chi c'è? C'è qualcuno? Valerio, sei ad Alghero? Chi c'è ad Alghero? Aspetta che controllo che non si siano spostati in un altro canale. Oh, invece si sono spostati. Chiedi un controllo a Luvinti. E beh, com'è la situazione? Eccomi un attimo. Allora, non li trovo quelli di Alghero, erano qui fino a un attimo fa. Valerio, ci sei? Sì, sono qua, Marco. Ehi, guarda, ti sta chiamando Claudio da Natalino. Venite avanti per Alghero. Ehi, dimmi. E dimmi, mica c'è Alghero, mi. Allora, Alghero, attenzione, Alghero, lasciate, ricambio. Attenzione, aspetta, Alghero, pronto? Chi sei? Valerio, dove sei? Con chi sei? Sei per sei? Dove sei? Ciao Claudio, buonasera, sì, sono io, sono a casa, dimmi tutto. Sei a casa? Un bel basso sta arrivando, come mai? Basso? Ah, non lo so, la potenza è sempre quella e non lo so. Lu, come ti arrivo io lì ad Alghero? 725 la radio, diciamo, sì, ti capisco, però sono un po' di QRM, capito? Sono QRM 703 Cisco. Comunque riesco a capirti. Ok, aspetta, solleviamo la potenza. Ok, vediamo un pochino come ti sto arrivando adesso. Allora, in assenza di modulazione Santiago 4, stando invece modulo di Santiago 5. Ok, io comunque a te ti sento, non ci sono problemi. Stai arrivando da 5 a 7 anche tu. Va bene, quindi Alghero, Valerio arriva, poi chi c'è ancora? Non so, c'è Giuseppe, lo senti a Claudio? Attento Giuseppe, ora. Così, ma... Attento Giuseppe, mi ascolti? No, non risponde. Forse Giuseppe, lo senti a Claudio? No, dice di no. Vabbè, Giuseppe non fa testo, avevo quell'antenna, però noi lo sentiamo a Giuseppe. Basso, ma lo sentiamo, capito? Quindi è già importante. Giuseppe sta andando con poca potenza, poi in settimana deve agganciare l'amplificatore, perciò aumenterà ancora. Mica vi ha risposto, mi. Sì, ma ok, Giuseppe, va bene, non è un problema se ci senti bassi, ok? Non è un problema, perché la tua ricezione è inferiore a quella di Valerio, quindi non c'è problema. Poi qua arrivi comunque, anche con poca potenza tu stai arrivando, problemi non ce ne sono. Domanda, Marco, la mia radio va bene così? Sì, naturalmente siamo vicini, quindi è un bel forte, dai. Domanda, le stazionali le avete verificate sull'1 e sul 40 almeno? 0, manco si muove l'ago, dal canale 1 al canale 80. Minchia, che culo. No, non dire queste cose, che professionisti siamo, noi siamo professionisti, perché se tu paghi, vieni qua, vedi cosa abbiamo fatto, ti metti le mani in testa, capito? L'unico problema che abbiamo è che l'ultimo pezzo del tubo è molto più debole rispetto agli altri, quindi dobbiamo ancora ancorare più in alto, però l'antenna è montata, perfetta, dritta, bella. Ehi, Avalè! No, ti volevo dire, fai le foto, la voglio vedere, com'è montata. Cosa, Avalè, che c'ho splatter, cosa hai detto? Fate le foto all'antenna e al tubo, cioè fate le foto all'installazione e poi le passate a tutti, agli interessati, dai. Adesso scendo giù e le faccio, va bene? Le foto all'antenna devo mandarle su WhatsApp. Ok, per il momento vi saluto, che Natalino ci deve pagare a bere e ci sentiamo dopo. Ok, grazie a tutti per il momento. 9 più 10 qua, ciao. Ciao Giulio, prova anche tu, 9 più 10? 9 più 10 qua, sì. Ciao qua. Oh, perfetto, la radio è buona giù, anche tu sei abbastanza alto di segnale. Ottimo, sono sceso con 3 watt io. Ottima la radio, perfetta, veramente. Beh, Natalino, pure Rubizzetto ha detto vicino in Italia, Giulio, da ridresce e menoghini. Santa Maria Madre Nostra, lo siamo fatto. Ottimo. ottimo lavoro, va benissimo. Bello, bel lavoro, dobbiamo staffare l'ultimo pezzo del tubo perché è un po' più debole, ma il piantone che ho portato io è eccezionale, siamo riusciti veramente a fare un lavoro ottimo. Ok, va bene, grazie Giulio, grazie Valerio, grazie Giuseppe e grazie Marco, ci sentiamo tra un attimo che io faccio due foto e poi ve le mando, ok? Ok, d'accordo, dai, ci sentiamo più tardi, che devo uscire per un momento. Ok, ciao a tutti, Marco, Valerio, tutti quanti quelli che mi ascoltano, Natalino e compagnia cantante. Ciao a tutti, a dopo. Ok, a dopo, ciao. Sì, ciao Giulio, mi raccomando le foto, le sfocate, le mosse, falle chiare. Tranquillo, tranquillo. Poi tanto andrò a Natalino quando mi sentirò meglio a vedere l'installazione. Ok, dai, sono contento. Ascolta, i radiali come li avete messi? Uno dentro e due verso l'esterno o come? Abbiamo salito l'antenna con la fune sino ad uscire fuori. I radiali escono fuori dal tetto almeno di un metro e mezzo e l'antenna è libera. Adesso ti mando la foto e te la faccio vedere. Aspetta un attimo. Di lusso, ok. Poi faremo le prove con più persone più tardi. Va bene Marco, rimanete in radio e ci sentiamo dopo, ok? Ehi, dai, io sono coricato qua, appena mi chiamate vengo in radio, ok? Ah, bel lavoro, Ehi, Ehi, Valerio, io sto usando 10 watt, 10 watt in questo momento. Fai il paragone, lui vabbè, più basso ma è più libero. Io sono in alto, vabbè, verso Alghero è libero comunque. Quello che mi frega è da Porto Torres in poi è più coperto, capito? Tutto quello che c'è a est, nord-est per me è coperto, Sorcio, Sennori, quello è tabù per me. Ma quanto sto uscendo bene, ma tu arrivi bene qua, non c'è niente da fare. Santiago 7, con tutti di 8 adesso, Santiago 7 con tutti di 8. Invece Claudio, importante fissa, senza modulata, Santiago 4, modulata, Santiago 5. Diciamo che va bene, va bene. Eia, poi si faranno le prove in base ai watt. 4 watt, 10 watt, insomma. Eia, sono contento, guarda, sono veramente contento. Purtroppo oggi non sono potuto andare per colpa di questo accidente che mi è venuto. Però loro sicuramente se la sono cavata non bene, va benissimo. Anzi, forse io sarei stato in piccio, dai, tra noi. Perché ci vuole gente forte, come Massimiliano, che è robusto, Claudio, gente che ha potenza nelle braccia. Eia, e quindi non io, e io potenza nelle braccia non ne ho. Bene, tu arrivi, allora questo smitter è a LED, tu arrivi praticamente a 9. Come fa che arrivo? Allora, sto usando circa 50 watt, 50-70 watt, modulati 100. Sì, sì, guarda, con l'altro baracchino arrivi 8 e 3 quarti, e quindi quasi 9, no? E qui segna, qua è LED, segna 7, 8, 9, quindi non c'è la, capito, 6, 9, dai. Entra, va bene, dai, vediamo che, vediamo un po', dai, quando entra la studio facciamo tutte le prove, quanti watt tira fuori quell'apparato che ha la studio? Allora, fino a 40 di portante muta o 40 modulati. 40 modulati, cioè lui può mettere pochi watt portante muta e tutti modulati, oppure può mettere tutto a manetta e usare tutti i 40 watt di portante muta, capito? Pieni? Se esci con 40 watt uscirà bene, vediamo. Sì, poi fra, insomma, con l'andare del tempo deciderà se mettere anche un linearetto, che in caso di difficoltà non guasta mai, dai, un HF747, dai, va più che bene, e il rapporto costo-watt è il migliore, perché aumenti due Santiaghi, per aumentare di un altro Santiago devi quadruplicare i watt, da 100 dovresti passare a 400, la spesa è abnorme, capito, non c'è il tanto. Sì, no, già va bene, dai, prendiamo un po'. Sono arrivate le foto di cosa, di Claudio, adesso controllo. Ehi, Valerio, io mi assento, dai, mi devo sdraiare un po'. Vado a vedermi le foto che sono, c'ho le... il cellulare nell'altra stanza, dai. Poi ci sentiamo più tardi quando entreranno tutti, ok? Ok, a dopo, ciao Marco. A dopo, ciao. Vedi che non c'è. Mi la Sì, l'hanno terminato, però devo fare un piccolo ritocco in tuta. No, non penso, no. È un rinforzo alla fine del tubo, mi sa, perché è troppo debole, flette un po', che mi sa che dovranno mettere un'altra scarpa, penso. Allora, no, mi ha mandato una foto, cosa, Claudio. Non ho capito come si fa. Sono dalla Madonna, Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo, dai, che adesso rientriamo con la Cilia. Qua è tutto a posto. Valì, l'hai ricevuta la foto? Sì, l'ho ricevuta. Come, Valì? Sì, ho detto di sì, l'ho ricevuta. Ma appunto è piegata. Tirandola su ci siamo agganciati a quell'altra antenna TV, capito? Si è piegata leggermente la punta, ma non le fa niente. Però hai visto il lavoro che abbiamo fatto a facciata? Mamma mia, io pensavo che c'era un terrazzino o qualcosa, per carità di Dio. No, Valè, non ce n'è terrazzini qua. Abbiamo lavorato dalle finestre, ma soprattutto quello di su dell'ultimo piano ci ha dato una mano con la corda a posizionare l'antenna, il palo dentro la staffa, perché è pesantissima, capito? Ci sono due piantoni di palo molto robusti. Sì, l'ho visto, ho capito. Adesso dovete rinvoltare la parte superiore, no, del tubo, perché è molto sottile quella. No, non c'è niente, capito, no. L'unica soluzione era quella, non avevamo altre possibilità, però io avevo già studiato tutto, praticamente ho staffato più basso e l'altra staffa di su non l'abbiamo utilizzata, capito? Era impossibile portare l'antenna di su. Mi sono staffato sotto, no? In quella dove vedi che è piantonata, e ho aggiunto altre 4 metri di piantone. Ho capito, l'ho visto. Già va bene, dai, l'importante è che spari, già va bene, Santiago 5 mi arrivi, Santiago 5, diciamo, modulati Santiago 5, l'importante è Santiago 4, già va bene, dai, adesso lui c'è un po' di QRM, ma comunque ti ascolto, diciamo che come radio ti posso dare radio 3, certo, mancanza di, diciamo, di QRM anche 4, no? Diciamo, come modulazione, comunque va bene, dai. Sì, vabbè, tieni conto che la zona di Natalino per Alghero non è molto favorevole perché ci abbiamo Monte Oro davanti, e quindi sono più che soddisfatto, Valè, più che soddisfatto, capito? Ma adesso io vado a casa e vedo quanto mi arriva, sicuramente mi arriva un 9.30 pieno, perché era 9.10, 9.5, 9.10 con l'antenna della macchina, quindi. Va bene, dai, stiamo rientrando a casa che sono stanco morto, io ho fatto tutta una tirata del lavoro, sono venuto direttamente qua. Ok, Valè, un abbraccio, ci sentiamo dopo, un ciao circolare a tutti. A Giuseppe, se mi sta ascoltando, dopo lo chiamo da casa perché ho ritirato l'amplificatore, quindi domani sicuramente vado ad Alghero a montarglielo, va bene? Cosa ha detto Valè? Ha detto che ti sente bene, Giuseppe ha detto che ti sente bene. Comunque Giuseppe, domani, anzi mi ha detto Claudio, infatti sentire dopo, ecco Claudio, va a casa tua, è molto stanco, eccetera, eccetera, va a casa tua e dopo potrai sentire perché ha ritirato lineare e sicuramente domani te lo porta, hai capito Giuseppe? E ho lavorato, che poi ho fatto tutta la pirata da lavoro, sono uscito al lavoro e è andato direttamente a casa di Natalina, perché la moglie lo starà aspettando a casa. E no, io non la conosco, non so, sì, passo, sono passato tante volte, però non ho, solo per il mercato, lì, eccetera, eccetera, però non ho. Esattamente dove è Natalina, non lo so, capito? Sarà lì, via, cos'è la mia? Adesso non mi ricordo. Vabbè, comunque, quindi, vai, esattamente passo un po' polizia. Ma lui sta all'interno però, è all'interno in vicolo. Va bene comunque, dai, comunque è molto meglio, prima non si sentiva, Natalino ha detto, diciamo che si sente perché Claudio si sentiva bene, non tanto bene, prima c'è un po' di QRM qua, porca miseria, ci sono dei giorni che non c'è, per esempio ieri notte non c'era un attimo e non c'era un filo di QRM, nulla, che sia questo, questo QRM fisso, io non so tu, da che cosa dipende, no? Vabbè, da parte tua c'è la quella, però da me ci sono delle volte che il QRM non ce n'è, e poi il pomeriggio verso le 6, verso le 5, le 5 in poi, inizia questo QRM fisso, ma non su tutti i canali, capito? No? Fammi su qualche canale, così, su, per esempio, su 10 c'è questo QRM tanto questo. Invece c'è soltanto sul 9 e 0. Ma no, non c'è nessuno, non sta parlando nessuno. Questo qui si chiama 9-10, chi è? 9-10, mi sei? Quello qui, da parte va lì, 9-10, si prova? Così 9-20, sono insieme a Giuseppe. Sei Giuseppe? Però tutto bene, no, no, non ci sono problemi, Ah, non lo so. Questo è un mistero, non lo so. Dovrei sapere quanto arriva di Santiago da te. Vabbè, ci sarà la terapella. Questa gara, dove sta questa gara? Non ce l'ho presente la zona adesso. Chiuse! Stavo dicendo, questa gara, che zona è? Che non me lo ricordo. Ho detto Porticciolo, no, Portoferro, Basasco, Magolifara, in quella zona. Allora, quella zona lì mi sembra un po' troppo, 9-10, fino a cui è arrivato 9-20, Pacchi ha attaccato lineare, 9, non so, può darsi, no, però no, aspetta, perché ce n'era uno, che era una zona dell'aeroporto e me ne era molto più basso, sì, non lo so. Chiamando l'antenna, no, quello che stava vicino all'aeroporto con non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama, chi era, e mi è arrivato Santiago 9 sola, e lui mi dice che mi dice che sta Santiago ed è 9-10, ma non lo so, non ti piegare, no Giuseppe, no, lascia stare. Non c'era anche Franco, no, devo andare a prenderti la pastiglia, l'abbiamo anche dimenticato, no, per vedere un po' come arrivava Claudio, capito? E allora, che facciamo? Eugi, mi ascolti? Natalino. Quella, che è? Buonasera, Natalino. Ehi, Natalino sono. Aspetta un attimo che è troppo alto questa cosa. Natalino sono, volevo sapere se mi sentivi, perché ti sento bene adesso. La te l'avevo piazzato? Perché si vede? Sono... Dove sono? Sono qua, dove... A Predaniede, prima non ti sentivo. Aspetta, avete parlato in due. Chi è? Forse abbiamo parlato in due. Eccomi qua, Natali. Eugenio, mia, lo faccia tu, mi sono mangiato due belle uova fritte. Andate una alla volta. Ah, c'è la ruota di Alghero però, Natali. Qua dovete aggiustarvi voi. Io ho sentito Eugenio, sono entrato a salutarlo, capito? Predania da dove? Come arrivo io lì, Natali? Guarda lo smitter a portante muta, guarda, Hola. Sì, nove, fondo scala, ho visto la foto, sono veramente contento. Ma la punta dell'antenna l'avete un po' storta? Ha toccato, ma l'ha detto che mi si è fatta storta. Adesso io devo vedere quando arrivi a casa. Ma Sassari per forza arrivi. Prima Pucciutorra. Natalino. Aspetta, sto facendo pulizia, là, non posso rimanere. Vi ascolto, va. Dunque, a portato il reso, penso di arrivarci. Sì, dopo vediamo, vai. Ehi, a dopo, dai, pulisci, metti a posto un po', dai, poi ci andiamo tutti assieme, dai. Ciao a tutti. Io faccio un attimo il servizio, vado a stendere la roba. Sì. avevi più forte da Marco. Oh, Claudio, e da te come arrivo? 9:25, arrivi più forte da Marco, vabbè, io sono più lontano da te. Claudio! Non lo senti? Qui Padoi, arrivi ad Alghero. Io sono in macchina, sono col furgone. Sì, tu sei sempre in macchina, dove sei in macchina? Di casa tua, tu sei troppo coperto, caro mio, sei quello che arriva più basso di tutti dalla zona di Porto Torres, anche a me, non lo so. A Franco avrei voluto sentire, 9:25, che potenza c'hai, Natali? 10 watt, l'importante è muta. 10 watt, mettila a 20 watt. Così a 20 watt. 20 watt sei 9:30. 9:30, arrivi più forte di Gianni. Figurati. No, ma la lascia a 10 watt, là. Già va bene. Andare così. Senza accordatore, ma vi ne. Guarda che sta chiamando Eugenio, lo senti? Basso basso, lo sento. Ciao. Allora, qua fai da Parì, 9:15, 9:20 moduati. Ma sono a potenza bassa, 10 watt, capito? Aumentalo, amico. Niente accordatore, tutto ok. Ma vabbè, un attimo che mi ero suonato il campanello. Sì, Natali, ma va vai l'antenna, cazzo, 10 watt. C'hai 40 watt, mettine la metà, mettine 20. Perché lo devi tenere a 10? Mettine 20. Così è 20. Oh, sei 9:30, lasciala 20 watt. Se fai 40 watt non sei a manetta, no? 20 watt sono più che sufficienti. 9:30, sì, qua. Gara, gara. Oh, Tatalino pure, siamo a posto. Figuria più a dillo che a fallo. È stata un'impresa, perché non è facile montare un'antenna in quelle condizioni, però almeno la soddisfazione ce l'abbiamo fatta, no? Fatti, non parole, fatti, non parole. Gara, gara, domani faccio le fotografie, là. Prendo la macchina e faccio le fotografie, adesso non la giugano, la giuribili che mi sono buttendo. Sì, come se pira bagno le scarpe antifortunistiche la stamattina alle 6, cazzo, non ce la facevo più. Ottimo, dai, ottimo, sì, io le ho mandate a Marco, le foto le ho mandate a Valerio, che Valerio sento che è stata un'impresa, perché non è facile fare quel lavoro, però io avevo detto che si poteva fare, quando dico si può fare, cose si può fare. Almeno sentirò a Sandro, sentirò a Eugenio da casa sua, a Coso sentirò a, come si chiama, a Franco, cazzo, sono curioso di vedere come arrivo da Franco. Ah, Franco di Sorso? Beh, già li arrivi, se li arrivavi prima con l'antennino, allora vai l'antenna vola. Se arrivi Santiago 7 ad Alghero, a Valerio 5-7, da 5 modulati 7, qua c'è 9:30 pieno, adesso vediamo Eugenio, se ti ha sentito dalla macchina nella veranda di casa, tenendo conto che i tubi erano quelli, abbiamo fatto l'impossibile, Natali. Se la tiriamo ancora su di altri due elementi, che superiamo la casetta lì di quel tetto, comunque l'antenna è fuori, i radiali sono a 1,5 metri dal muro, quindi è più che sufficiente. E infatti, facciamo salire le... andare 4-5. Eia, guarda che c'è anche Natalino, ciao, mascherato. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Natalino, ciao Claudio e qualche altra persona che è qua. Ok, avanti Natalino. Ciao Fabri, adesso come mi ascolti? Adesso già ti sento bene. Ah, io ti ascolto tu, ma sei ieri, mi ti sento 1-2, massimo 3 modulati. Ma dove sei, in macchina? Ma dove sei, dicendo che sono a casa. Ma arrivino via, che cosa, a due nomi? Ah, qua arrivi 9:20 modulati, arrivi bene, benissimo, radio 5 perfetta. Ok, grazie. Riprendi Fabrizio. Avanti, io qua. Un'impresa abbiamo fatto, Fabrizio. Ciao Valè, un'impresa, guarda. Abbiamo finito, adesso monta l'antenna natalina. La facciata, è tutta facciata, senza poggiore, senza niente. Tre cose, tirata su e messa dentro le staffe, per carità, guarda. Mamma mia, alla fine ci siamo accorti che la punta, come abbiamo tirato su perché toccava da tutte le parti, però il radiale siamo riusciti a montarli. Abbiamo appena piegato la punta, ma non se ne fotte nulla, l'importante è l'antenna andi a vedere. Ok, oh, c'è Giuseppe, Valè. Giuseppe, ci sei? Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito. Poi chiedo a Valerio come ti ascolta lì ad Alghero, perché ancora non me l'ha detto. Allora, ho fatto tutto, sono andato, mi sono fatto sostituire quel pezzo che dobbiamo aggiungere, quindi ti telefono domani, vedo un po' come sono messo col lavoro, ti telefono domani e faccio un salto. Ok, però ti telefono prima, va bene? Adesso vedo un po' come sono messo col lavoro, perché siamo a metà settimana, domani c'ho i campionamenti dell'ASL, quindi devo vedere a che ora mi libero. Se mi libero presto ci faccio un salto e te lo collego, se invece mi libero tardi allora facciamo a fine settimana, ok? Valè, domanda, come lo senti lì ad Alghero a Giuseppe? No, lo sento bene. Aspetta che batto il volume, si può fare qui, aspetta che batto il volume di quest'altro. Oh madonna, no, aspetta, devo cambiare il canale, ecco qua. No, Giuseppe lo sento bene, la voce è chiara, certo Santiago è leggermente più basso, ma non ha poca cosa, non di più, non più di quel tanto. La modulazione è chiara, è perfetta, oh, meno male. Quello mi interessava, ma sì, vabbè, ancora siamo in fase di sperimentazione, devo collegarle l'amplificatorino lì, sistemarle alcune cosette, che però l'amplificatorino lui lo userà solo esclusivamente quando parla magari con chi non lo sente. Per Alghero non c'è bisogno, perché qua è Santiago 8, prima era Santiago 9, quindi non è che è cambiato molto, capito? Va bene, quindi mascherato tu non lo senti a Valerio perché sta parlando d'Alghero, microfono per Natalino, vai Natalino, 9 più 30 qua, 9 più 30 pieno. Gara gara. Non c'è, qua sono bagnate. Valerio non lo so se lo sento, adesso bisogna vedere. Se non mi senti? Non ho capito bene. No, sentiamo se diminuisce, forse hai abbassato la potenza, adesso da 3. L'importante è 3, modulato è 4, invece poc'anzi che la potenza c'era, potenza forse, ma l'importante era 4 e modulato è 5, va bene, tutto dipende dalla potenza. No, ti ascolto, io ho oggi QRM, sicché mi arrivasse un po' praticamente tutti disturbati, a parte i segnali che superano il Santiago 6, quindi mi sento alla perfezione. Dimmi nuovamente, Natalino. Dimmi Valè, adesso ti sento, dimmi. No, sto dicendo, mi senti bene adesso, sì? Sì che ti sento, dai, tu bene mi senti. Bene, perfetto, adesso ti ascolto a meraviglia. Anche sì, ok, dai. E Marco che fine aveva fatto? Marco, ci sei? Chi è? Dai, la platta no, Marco, dai, fidanzata. Marco! Ma chi era Pomponius quello lì? Questo QRM, meno male. Roba di disturbi, ciocas. Del tipo? È del tipo che c'ho dei disturbi. QRM. Disturbo il cuore, ma avessi disturbo a testa. No, è la prima volta che ti sento così forte, cazzo Fabrizio. Ah vabbè, c'è la prima grande. E metti che io sto utilizzando un dipolo, quindi per quello anche qui sono verticale, io sono di orizzontale. Così è poi rivolto verso nord, verso il mare. Oh, io mi sto lavando, un attimino già riprendo subito, ragazzi. Guarda lì, una bomba, sì. Ottimo lavoro, cazzo, mi sto guardando la foto che ho fatto, guarda, minchia. A raccontarlo è un casino. Ok. Si sta lavando, Fabrizio. Ti ho chiesto una cosa. Dimmi Fabri, dimmi. Ascolta, secondo Milanista, ma può essere che domani la Juve prenda 4 gol, da Barcellona, io non vi credo. A chi si crede, io che dico Rubaier, la miglior difesa d'Europa, si fa di fare 4 gol dallo Barcellona. Domani il Barcellona vince, ma vince 3-1, tranquilla che vince 3-1 domani il Barcellona. Io sono juventino, però sono sportivo, il Barcellona in casa è fortissimo, ma non rifate 4 gol. E la Juve gliene fa un altro, anche a Barcellona domani. Io sono convinto che la Juve ne gliene fa 2 al Barcellona. Il Barcellona è costretto ad attaccare e la Juventus sicuramente li castigherà in contropiede con quei 4 pulli che c'ha avanti. Guarda, la Juve domani gioca con 4 difensori e 3 attaccanti, quindi voglio vedere se può andare a Barcellona. Purtroppo è quello, la partita la faranno in contropiede. Il Barcellona è costretto ad attaccare e la Juventus sicuramente li pulirà in contropiede con quei 2 pollacciotti che c'ha l'attacco. Andata Fabri, che erano venuto a cattopalla a Messi, ma devo andare. Ma cosa ci credi che va a Cogio in difesa? C'è Chiellini, lo marca Chiellini, non gli fa toccare palla a lui, e si attento a tagliare anche le gambe. E sulla fascia c'è Dani Alves, è con Quadrado, quindi hanno in bocca una giugata tutte e due, Suarez e l'altro Mollo. Su Neymar non ha toccato balla. Sì, ma infatti Neymar pur non ha toccato balla. Dimmi Natalì. Natalì, non stai uscendo. Non stai uscendo Natalì, 9.30, se radio non ce n'è, cosa hai cambiato? Radio? Qua arriva più basso, arriva a 8, prima arriva, no, arriva 9, prima arrivano 2.20. Ho cambiato radio, come lo fa? Perché non è quella di prima sicuramente. No, non stai uscendo Natalì, cazzo, c'è la radio che esci, non stai uscendo di radio Natalì. Lo so, ho attaccato il presence, ma vera che cosa è Noanda in il tuo MB4, molte volte non mette la, non esce di radio. Va bene, adesso mi Natalia, sai cosa devi fare, tutti quei baracchini li metti da parte, piano piano, ti conservi i soldi, un bel 440 e tu sei in gomma di vostra mano. Infatti, faremo così. Dove fra? Sono Claudio, ho detto dove Santiago 2, chi è che stai ricevendo Santiago 2? Santiago 2 da te, caspita, Santiago 2 da te, ottimo, perché tu sei più dall'altra parte. Ehi, kappa, bravo. Ok, lo senti a Franco D'Alghero, Natalì? È un po' più basso di Valerio, eh? Sì, io lo sento, basso, ma già lo sento. Ha chiamato Natalì. Sta facendo cosa, Clacker? Vabbè, dai, sistemate tutto lì, dai. Un attimino per Natalino, perché c'è un casino lì che eravamo tutto il giorno forando, facendo, tagliando, e sta mettendo a posto, dai. A me datemi 5 minuti che mi do una sciacquata e sono tutto pieno di polvere, un vento che c'era lì, mamma mia, poi c'è tutta la facciata a cantoni, vale. C'ho la testa tutta piena di sabbia, dai, mi faccio una doccia e rientro subito. Fabri, se ti trattieni riprendo subito, ok? Cioè c'è Natalino, Valerio, eccetera, eccetera. No, ragazzi, vabbè, devo uscire, tra poco devo uscire, che allora ci siamo più tardi, capito? Cioè, devo fare una commissione veloce. Ma ci sentiamo dopo, là, se vi trovo, ok, ci sentiamo dopo, dai, rimango un attimo in ascolto e poi chiudo. Eia, va bene Fabri, va bene, dai, buon ascolto, ci sentiamo dopo. Natalino, in quel Rix che sta mettendo a posto, vale, datemi 2-5 minuti, mi faccio una doccia e poi riprendo, ok? Eia, fatti la doccia. Dunque. Ruggere, perché parte dal primo piano, poi c'è il secondo piano, poi devi superare il sesto, per seguire un po', e non lo so, no, ci sono tante case vecchie lì e bisogna vedere, e, ma di piccoli ce ne sono diversi, non è solo uno, capito? Sì, però se sia quello, non lo so, sto controllando adesso, sì, c'è una buona visuale. Eccomi, allora. Ehi, allora, 9.30 arriva Natalino. Eia, avrà, ma è qua adesso, sì? Sì, cazzo, con culo, non prendo la misura giusta dello stub, proprio zero di stazionare, non ne usa accordatore, senza accordatore. Beh, ci mancherebbe, con la 5 ottavi ci mancherebbe che ci volesse l'uso dell'accolatore. Eia. Ok, dai, poi quando rientra facciamo tutte le prove. Vabbè, qua arriva anche troppo forte. Arriva col tuo segnale, 9 più 45. Figurati, vabbè, più vicino. Qua 9.30 lui arriva, un pochino più basso di te. Oh, conta che adesso io sto usando 10 watt, non 4. Tu sei 32, 33, modulati 35, lui è 30. Capito? Però io sono più coperto verso lui, sono più aperto verso di te. Però c'è un segnalone, veramente ottimo. L'hai visto bene il lavoro che abbiamo fatto? Hai visto gli innesti, il piantone, l'hai visto? Sì, magari dalla foto non si capisce molto, poi lo vedrò in verticale. Vabbè, peccato per la punta che si è piegata un po'. Sì, vabbè, per i suoi minaffutti della punta. Sai perché si è piegata, Marco? Perché l'abbiamo dovuta legare con la corda per tirare su, per metterla dritta, perché era per terra, per metterla dritta da sopra a tirare, e mentre stavamo tirando è entrata la punta dentro il capo del telefono lì, quello che c'è facciata, capito? Si è piegata per quello, se non toccava lì era perfetta, ma non fa niente, no? Tanto con la punta prima o poi col vento si piega, e non è che tutte quelle antenne hanno la punta piegata, invece noi l'abbiamo piegata dall'inizio, però è un lavoro eccezionale, studiato bene, regola d'arte. Sì, infatti non influisce, capito? Non influisce assolutamente. Vabbè, esteticamente è un'antenna nuova, tutto nuovo, la fa giù nuova. Va bene, guarda, meno male ci siamo riusciti, un'impresa per tirarla su e metterla dritta, un'impresa, se non ci fosse stato quello del piano sopra Natalì non ce l'avremmo fatta. Vista la posizione, beh, meno male che vi ha aiutato, dai. Sì, ci ha aiutato, ci ha dato il passo su da lui, ci ha fatto agganciare la cravatta, praticamente il tirante cravattato, dai, ce l'abbiamo fatta, sono contento, 9 più 30 a Tattarino. Cava cava, adesso quando entra Gianni, gatta, ti ricordo roba di Bazzinata. Gianni gli arrivi forte lo stesso, e beh, con la zona arrivi forte a tutti, che sei 9.39, figurati i chili. Va bene, Antari, dai, hai visto, ce l'abbiamo fatta, basta far funzionare la testa di sopra, però non quella di sotto, perché molti fanno funzionare la testa di sotto, che non serve a niente quella. Infatti. Solo per trombare serve. E a te non ti serve manco per quello. Vabbè, già mi rifarò, dai. Quindi sei contento, Marco, hai visto, ce l'abbiamo fatta. Ehi, ancora più contento sarà Natalino, almeno riesce a sentire meglio, a trasmettere meglio. Te credo. Adesso vediamo quando entra Franco di Sorsa a vedere quanto gli arrivo. Ehi, poi se vuoi fare una prova comparativa, visto che le antenne sono simili, vabbè, le zone sono diverse, mettiamo a parità di watt, tipo 4 watt io, 4 watt tu, oppure 10 watt tu e 10 watt io, e facciamo le prove, dai. No, sei più in alto tu, Marco, di lui. Ma Sorso sono coperto, tutto coperto, Sorso Sennoni completamente coperto, lui è molto più, è più in basso ma è più aperto, se vogliamo. No, io ti ho sentito a casa di Giuseppe ieri, arrivi molto bene, arrivi benissimo, aspetta, col baracchino, stavamo provando il baracchino, arrivi benissimo, bello chiaro di radio, Santiago 7 arrivi, sicuramente sei più aperto, Natalino da lì, Monteoro ce l'ha proprio davanti, quindi è più coperto, perché ho visto la ricezione di Valerio, è più coperto rispetto a te, per Alghero, magari in altre zone va meglio lui e peggio tu, vabbè, ma non siamo qua per fare queste cose, l'importante è che ci sentiamo e ci facciamo due chiacchiere, poi c'è la biglielucci. Eia. Bene, bene, bene, dai, peccato che non ho potuto assistere, ma gira gira sarei stato di intralcio, che io forza non ne ho molta, Claudio. No, guarda, in due andavamo benissimo giù, io e Massimiliano, e sopra al secondo c'era Natalino e al terzo c'era Fisio. Eia. Bene, bene, c'è la rotta di Alghero anche qua, o siamo solo noi? Non lo so, io mi ho fatto la doccia, se mi sto mangiando una cosa. Ehi, sarete stanchi anche. Io avevo pranzato, sono uscito alle 2, alle 2:30 da casa, alle 3 ero da Natalino. Io ho pranzato, già stamattina alle 6. Figurati, sarei stanco e affamato pure. Stanco sono stanco, però mi sono tolto una soddisfazione. Eh beh, quello sì, anzi, meno male che avete agito, perché poi dice che veniva... sarebbe scesa una perturbazione dal nord Europa, capito? Sarebbe sceso la temperatura, anche un po' di, come dire, tempo brutto, quindi avete fatto bene. E il vento vi ha dato fastidio per piazzarlo, oppure no? No, nel piccolo eravamo coperti, no, non c'è nel vento. Il problema è che l'abbiamo tirato su. Eia, caspita, che culo c'è Natalì, perché nota bene, io ho usato la stessa lunghezza di stup, no? Tarato per il 20, no, per il 19, però per la mia installazione e forse anche per il mio cavo che ho, il centroband è risultato sul canale 20 sotto, forse anche di più, cioè io sono molto più centrato sotto sui canali di sotto che non sui canali di sopra, capito? Lo so, me l'avevi detto, ma io ho seguito le istruzioni, l'ho fatto a 76 centimetri ed è il risultato ottimale, perché io non sto usando l'accordatore più, capito? Oh, naturalmente nemmeno io lo uso, però sai, quando metti lineare, se sali molto in alto, tipo vicino all'80, per me è meglio metterlo, appena appena, a me è meglio metterlo, per sicurezza, più che altro per i finali del linearetto. Bene, bene, sono veramente contento. Poi quando entrerà Eugenio da produttore, se entrerà Franco da Sorso, e fare tutte le prove, ok? Eia. Io mi sono mangiato invece due uova con la sottiletta prima di... mentre voi piazzavate l'antenna a me. Verso prima delle 5, dai. E poi mi mangio verso le 8:30, mi mangio solo frutta, non voglio eccedere, perché ieri veramente mangiando ravioli e pollo sono andato al limite, ho digerito, però lo so, ma che era un po' così, e per fortuna ho digerito, dai, ma non voglio eccedere. E infatti hai fatto bene. È una cosa fatta via, è crollato a Cuneo, cioè, ma siamo diventati pazzi. Cos'è crollato? Questo cavalcavia a Cuneo. Magari c'era gente sopra pure. No, c'era la pattuglia dei carabinieri, perché loro si mettono sempre sotto il ponte, capito? E hanno visto il ponte che è caduto proprio sopra la macchina, allora erano fuori. E quindi si sono salvati per fortuna? Per fortuna sì. Minchia, allucinante. Meno male che sul ponte allora non c'erano macchine che guidavano. No, ma proprio un cavalcavia, è sceso proprio come quell'altro, capito? Loro erano lì, non stava passando nessuno, la macchina era sotto il ponte al fresco, no? Lo fanno spesso, e caramba, eppure la polizia, la stradale, lo fa lo stesso. Ho visto questo ponte, cazzo, ha schiacciato la macchina. Adesso il colmo, magari la fanno pagare a loro, perché dice, non dovevate stare lì, ma il viadotto non doveva nemmeno cadere. Ma loro possono saltare dove vogliono, non ne hanno problemi, l'importante non facciano intralcio stradale. Quindi quando c'è una piazzola di sosta o qualcosa di sosta, loro possono sostare, per loro non ci sono queste grandi difficoltà, capito? Magari tu non lo puoi fare, ma loro sì, perché sono in posto di controllo. Eia, chi altro c'è qua? C'è nessun altro? C'era Fabrizio Mascherato, è andato via. E niente, mi sono seduto da Fughetti, sono andato a bere. Un giorno abbiamo fatto un toast veloce, giusto per ammazzare un po', perché poi alle 8:30 ceniamo, capito? Oh, Va bene, metterla a posto, stai Natalì, sto controllando l'MBB4. No, non ho voglia di controllarla adesso, mamma mia. Tutta la roba non hai visto che c'era un macello? Non mi ha messo neanche quel filo di quell'altra antenna, figurati. Ma tu si fa oggi. Per oggi va bene così. Vabbè, Natalì lì le puoi attaccare il PL, ok? Quando c'è la finestra già aperta, momentaneamente te la agganci, poi ti ho detto devi fare l'altro foro per far passare l'altro cavo, però l'antenna è su, è collegata, è tutto a posto, anche l'altra antenna, capito? Che è attaccata appunto lì, devi solo fare il foro per far entrare l'altro cavo, perché è quello solo, però il PL te lo puoi attaccare, se c'è la finestra aperta te lo porti dentro e te lo agganci. E infatti era però non ha giugato di vannuta. Allora mi sono usato di no, mi ha giocato tutto quanto, a chi vedo un macello qua. E lo so, taglia, fai, molla, tira, uia uia, io sono il mal di schiena, lo prendo una bustina. E così abbiamo fatto, però il mio mal di schiena oggi è un mal di schiena di contentezza, almeno abbiamo fatto quello che abbiamo detto, quello che abbiamo progettato e quello che abbiamo scritto, tutto ad hoc. Vai Marco. Ehi, senti che bella radio che ha Tarino con il microfono suo dell'apparato. Sì, ma glielo ho detto, a me mi sentivi bene da lì, da casa sua. Sì, sì. Ehi, comunque si sente Natalino ben vicino, caspita, al suo segnale, e arriva come Salvatore, Salvatore arriva mi pare lo stesso, quando le poche volte che è entrato con questo apparecchio era con questo segnale qua. Qua 960 ci arriva solo chi arriva sotto casa forse, e dico forse perché non ho mai provato con questo apparecchio. E vabbè, l'importante ci sentiamo poi. E dico Salvatore da succhia. Eia. E io adesso dobbiamo far girare le foto a chi dobbiamo farle girare, però ti ripeto Antalino, il lavoro che abbiamo progettato è quello. L'unico handicap che abbiamo avuto è l'ultimo aspettone del palo, che è un po' più fine, ma comunque ancorato così com'è non dovrebbe andare da nessuna parte. E infatti. Poi quell'antenna mi girare con il freddo, ma non ho spezzato. Quindi una cornicina mai di quella da qua. Flette, però sempre in piedi. Sì, sì, sì, e questo è lo stesso. Anzi, ti dirò, non flette nemmeno perché è sottile, sottile, il vento gli passa attraverso, capito? Sì, ma noi quando abbiamo finito per fare le prove non era ancora ancorata, capito? Quindi fletteva anche il palo. Adesso invece che è ancorata non flette più niente, si muove ma non, insomma, non succede niente. Va bene, ti riconto, sono 9 metri, qua 10 metri il palo c'è. Ehi, vabbè, ce n'è la gente a bei dendi del vicinato. No, c'erano quelli del palazzo di fronte, amici, amiche, amici della moglie di Natalino che stavano facendo il tifo per tirarla su. Adesso, Natalì, hai provato se fatti vuoi alla tua TV? No, spero, non credo, anzi non, secondo me non è fatto. Aspetta che provo. Adesso sparisce lo schermo, mi. Buffo malefico. No, non lo fa a me, non lo fa a me, c'ho l'antenna sullo stesso palo. C'ho l'antenna sullo stesso palo, l'antenna TV, capito? Bene, bene, bene. Vabbè, fai tutte le prove del caso, dai. Quindi Claudio, sei manie di avà? No, Marco, lì sono stamattina con un caffè, io ho capito. Non ho fatto pausa a pranzo, non ho fatto niente, avevo il rientro dalle 3 alle 5, però avevo già preso questo impegno con Mattarino, quindi ho chiesto all'azienda che oggi rientro non facevo. Ma lo recupero tutto venerdì, capito? Non me ne frega niente. E non ho pranzato, ho avvisato mia moglie, ho detto non mi aspettare a pranzo perché faccio tutta una tirata. Così finivamo prima, capito? Se no a che ora iniziavamo? Quando siamo arrivati noi, Natalino aveva già tolto il palo vecchio, sceso tutto, capito? Noi abbiamo solo staffato, cambiato la staffa, assemblato tutta l'antenna e poi tirata su con le corde, insomma, fatto tutto vulcanizzata, tutto a posto. Però non ho pranzato io, quindi ho mangiato un tosto adesso, giusto sino alle 8:30, va bene. Io mi sento un po'. Ma un po' leggero perché sai ieri, anzi mi sono azzardato anche troppo a mangiare ravioli, pollo, cavolo, lo stomaco era però al limite, me ne accorgevo. Oggi voglio tenermi sul leggero, sono mangiato 2 uova con la sopra sopra col pane. Stanotte alle 8:30 mi piace frutta, frutta e budino, poi non mangio altro. Poi se ne riparlerà a stanotte tardi. Marco lì, no, giù con peggio non avete parlato, tu e Natalino, non ci ho capito niente. Aspetta Marco, cos'hai detto Natali, fai TV, no? Nulla, ho provato 1, 2, 3, canale 5, rete 4, nulla. No, che adesso lieto, va, dormo tranquillo e sereno. Dimmi Marco. Ho detto che anch'io mi sono tenuto leggero oggi, perché ieri era al limite lo stomaco, ho mangiato anche troppo. Poi alle 8:30 mangio solo frutta e un budino, e poi se ne parlerà per il brodo a mezzanotte. Ma cazzo, vedi, cioè, ti mangi il budino, la frutta e poi ci butti giù il brodo. No, non va bene, non va bene. Perché se c'hai qualche problema proprio di colite, di gastrite, brodo non va bene, non va bene. Mangiate un po' di frutta, un budino e basta, brodo non è mangiare. Ehi, ma dalle 8 a mezzanotte già c'è nel tempo. Poi io non ho gastrite, lo stomaco non ha nulla. Questo disturbo dipende tutto dal cervello, capito? Io sono già fuori pericolo per lo stomaco in più. Solo che devo, te l'ho detto, devo camminare piano, non devo stare alla luce perché mi dà fastidio la luce. Tutto lì. Bene. Io forse entrate tutti, e più, ma tutti quanti, a dare un controllo a Natalino. Sì, mi piacerebbe il tempo per dare il controllo a Natalino. L'importante è che il lavoro è stato fatto bene, non ce n'è. Tutto a posto, ti vuoi, non è fa, e quindi noi siamo. Che gomma li possiamo? Ci manca solo un linearetto. Il 747 mi. Sono a 40 watt, cosa devi pure segnare? Io l'avrei lasciato a metà, 20 watt. 20 watt sono più che sufficienti, va benissimo, quando poi devi aumentare gli altri 20, li aumenti, però 20 watt, Natalia, adesso c'è l'antenna grande, no? Io poi fare un tico watt, 2 watt, così l'avevo obiettato da fare, 20 watt dalle, e boh, e lo lasci stare a 20 watt fissi, va bene così. Sì, il resto li dà modulati tanto, e adesso ci può sbizzarrire a mettere i più watt che vuole. Limitatamente sempre all'antenna, no? Che 500 watt di picco, ma laterale, di picco picco, mi proprio, ma quindi in M ne puoi dare 150 continui, a voglia. No, ma sono Natalino, già lo so cosa deve fare, ma senza conservarsi i soldi, 13esima, 14esima, concetta lo aiuta, ci troviamo un bel 4,40, e lui se ne mette il 440 lì con l'MC60 e si salvi chi può. Ah, io non tornerei mai indietro con un Kenwood, lo sai, manco per le balle, io sto bene col baracchino. E vabbè, ma Natalino ha sempre avuto le cappa come me, capito, come me, quindi baracchino ho tanto di rispetto perché quello è veramente un ottimo baracchino, bellissimo anche, è funzionante, però il KK non hai problemi di potenza, non hai problemi di splatter, non hai problemi di nuda, mette sui 50 watt di portante, 70-80 modulati, boom, a posto. Beh, quello sì, ha già i watt di suo quell'apparato, poi senza parlare che in AM, che in FM ne dà, quanti ne dava il 440 in FM, un centinaio o meno? Un centinaio, il mio era quasi 200 in FM, se non abbasso guarda. A proposito di FM, Natalia, io proviamo in FM, Natalia, sei che mi sta lavando, ti bighinoci, poi quel muro, mamma mia, quando stavo staffando, come mi ha fatto, cazzo, anche la bocca c'avevo piena di sabbia, perché quel muro è cantone, capito, quindi come stavo stringendo le scarpe facendo col vento che c'era, buttava tutta la sabbia in faccia. Ma io in FM. Ma io vai in FM, Tatalì. Ma si sta bello che abbasso, che è troppo... Nessuno mi ha telefonato. No. Controllo questo numero. 10 watt. No, non ti dico. Cazzo, mettilo a 20. Non è che non ho 20, lascialo a 20. Sì, Natalie, adesso problemi non ne hai, puoi mettere i watt che vuoi. Allora, chiamo il padre. 20 watt, bene va. Tanto me ne accorgo se abbassi, perché con 20 watt sei 9 più 30, con 10 watt sei più basso, capito? Ciao Massimiliano, ti arriva bene a te? 9,15 a picchi di 30, ma, ehi, di 20 cioè. Bello, bello. Va bene, Natalì, io come arrivo lì da te? 9,20. Quindi la stessa storia, allora può. Cos'è il tuo casino, Massimiliano? Sì, vediamo che sta asciugando i capelli. Ah, Daniela, i capelli belli ti stai facendo, ma dove dobbiamo andare stasera? Aspetta, ripeti. Ho detto fatti bella ai capelli e tu, dove dobbiamo andare stasera? Dove vuoi? Mamma mia, quando mi dici così, va bene. Ti porto fuori allora, dai, una passeggiata romantica, no? Come ti sciogliamo e bugnetta e tuo marito. Non me la fa fare neanche in giro oggi. Tanto poverino, dai, lascialo riflettere adesso, capito? Già è uscito ieri e l'uscita di ieri c'è bastata, poi oggi te l'ho sequestrato, dai. Daniele, abbi un po' di pazienza. Poi oggi ci ho andato a Piazza Lanterna con Massimiliano, poi abbiamo ancora dei rutti di un cioccolato. E ha già fatto un esperimento, Massimiliano, cioccolato, capito, bello denso, no? Ghiacciato, ma giù pure la panna sopra. Oh, yeah. Già funge anche così. Non è lo si sente il tuo rumore sulla cappella? Un bel si sente, quasi ti copre, vabbè, a futtitini, dai. Lascia finire a Daniela quello che sta facendo, non c'è problema. Avanti, Tatalino. Sì. Segnale, abituato a vedere il segnale del Talino 9, 9.30, mi pare che sia in occhi. Eia, e poi quel baracchino ne imbatte un bel. Lui ha già 20 watt di portante muta adesso, e il resto modulati. Segnalone, ciao, segnalone, se parlate assieme non capisco, non ci vedi. Se attacchi sì, tu arrivi più forte, sei 40, però tu sei 35, lui poco più di 30, quindi un po' vi date fastidio, ho capito. Dai, che va bene, manco male ve l'avremmo fatta, santo Antonio mio, ma sai quanto era pesante il piantone, ma se non c'era stato Massimiliano, chi si tratti non ce l'avremmo fatta. Già l'avevo portata sullo stesso. No, Massimiliano, ci voleva uno così come te, bello, bello forte, perché sennò, ti ripeto, non ce l'avremmo fatta, perché hai visto che loro hanno avuto difficoltà, perché si è piegata la punta, che si ritira la bugia dell'antenna. Hanno avuto difficoltà perché la volevo dalla finestra, se c'era il poggiolo era una cosa, Massimiliano, ma la volevo dalla finestra così viene male. Ehi, vabbè, buttate la piazzata, a tutti i dinti. Già va bene così come l'abbiamo piazzata, va. Sì, capolavorale, siamo fatti. Perfetto, è dritta mi Marco, l'hai vista la foto quanto è dritta? Proprio le staffe, che non sono delle staffe così, sono delle staffe particolari che servono proprio per facciata, no? La parabola, ma hai visto quanto è dritta? Sì, ya. Poi vabbè lo vedrò in dettaglio perché dalla foto non si capisce un granché, c'è quel muro che è molto... non è liscio, capito? Non si vedeva bene il dettaglio, poi lo vedrò di persona, ok? Sì, quel muro mi ha fatto un geco. Se mai ci vede già Massimiliano e farà da un pezzo di intonaco. Massimi, cosa stai facendo? Grazie, cosa sta accetto solo, no, ho capito. Capisci a me? Ah, mi... Anna Duda mi ha fatto un toast, mi ha rimaniato giusto per arrivare fino alle 8:30, perché sono appesi senza mangiare, tutta una dirata. Chi ci vuoi? Santo Antonio mio, io come arrivo a casa le prendo, le metto al fogliolo, le metto in ciabatte. Tu immaginati da stamattina vista da Ligea, Ligea, chi ci vuoi antifortunistiche? Santo Antonio, va giù di lì, di incollati. Vabbè, tu c'era questo Natalino che è una cosa impressionante, ci ha dato una mano alla grande, butto. E meno male. No, cosa ci ha dato una mano, Spini Gonzale, sicuro, no? Lui ci ha fatto tutto, Natalino, un po' più lunga, che deve essere. Efficio, come si chiama? Efficio? Si chiama. E vabbè, quello già c'è anche forza. Però poi alla fine si stava coricando l'antenna sopra. Pesante, viva, so mettere in dubbio mi Massimiliano. Io c'ho un mal di schiena indescrivibile. Vedi un po' tu, Massimiliano, che sono una guida a portare il parente. E anche di voi, abbassata degli isci come hai fatto qui, un peso. Ti abbassa tutto, non fa niente. Qualche giorno già ti porto alla crucca, là, e te la faccio una passata pure a te. Va bene, avanti Marco, ciao, scusa ancora non ti ho salutato. Sì, ciao Massimiliano. Che poi tutto il peso era il tubo, perché l'antenna da sola bruce tutto i radiali, pesa 2,5 kg massimo, quindi tutto il palo è che ha pesato. Allora, era bella bizzanti, poi i radiali impediscono lì, e ti credi sia così a piazzattiva, come avevamo fatto noi. E io allora non è uno scherzo, Marco. Permesso? Mia Sandro, mia. No, non è uno scherzo, perché i due piantoni che ho portato io pesavano, sono due piantoni per innestare, pesavano quante, tutto il tubo da 6 metri, il natalino più l'antenna, solo due piantoni. Ciao Sandro, buonasera, ben sentito, avanti. Eia e poi eia, buonasera a tutti, circolari e salutoni. A qualcuno qualche pugno in capo. Ciao Natalino, buonasera, finalmente riesco ad ascoltarti. E io anche, splendidamente bene, ciao Sandro. Meno male che riesco a sentirti come si deve. Chiappa dai, va bene, ti ascolto bene, almeno da parte mia, Santiago 7, leggeri picchi positivi, la Radio 5 è buona. Chiappa dai, riprendi qua. Hai visto, tu stavi aspettando l'entrava Sandro, beh, ci arrivi al ghero, arrivi anche a far dottore, se no. Sandri, un'impresa, va, ti mando la foto, un'impresa indescrivibile, va, no, Massimiliano, proprio abbiamo fatto un lavoro a regola d'arte, dai, però con grande difficoltà. Avanti Marco. Sì, un attimino che sto aprendo l'uovo, questo è l'uovo di Pasqua ancora che non ho aperto, è un uovo simbolico perché è piccolino, c'è anche la soppleggia dentro, chissà che non ci sia un baracchino dentro. Basta che non sia, comunque devi venire a pigliarti chissà che ti devo dare, che io non me ne mangio tutti chi sui. Non ti preoccupare, già ti do una mano io a mangiarli. Ciao Sandro, ben entrato, ben sentito. Sandro, attento Sandro che è tutto a facciata, il tubo lo copre un po' il ramo dell'albero, ma è tutto a facciata, è tirato su con le corde, le staffe sono a facciata, noi abbiamo lavorato dal tetto, non ci hanno fatto salire, abbiamo andato la foto. Sono travagliato, guarda da come. Ahi, abbiamo lavorato dalle finestre. Vabbè Sandro, caggiù. Scusate che c'è una bassa. E beh, mette che io sto mangiando qualche patatino, guarda. Avanza, chi domani i patatini. Ugani, se me la mania di rivolti. Allora manco la tiene buone lì. Vi racconti che la mangiando, mi mangiando un panino con il formaggino, no? Cata, attacca baggiacchi, pure a rubare il buruello. Figurati, io sto mangiando un toast e voglio flippa attaccata ai piedi, no? Ui, e ci vado a bere, là. E prendi Marcolì. Un attimino, mi assento un attimo. Ma se no ti abbandonato, gatta. Prima mi seducano e poi mi abbandonano. Ah, io sono andato a bermi un po' d'acqua. Ui. Vabbè. Ah, se no quando entra Luca, a succiarito mi biglia. Mamma mia, Luca, Marco, che li arrivavi 9.15, 9.20 con l'antenna della macchina, Isso Maria Gare, e poi ce li hai tutti vicino lì. E allora, mamma mia, ho già anni con più rumi quando entra, se ne accorge subito, non ti vede disegnare qua. Senta lì, 9.30 qua, quindi lì, 9.45 da Marco. Figura di due, da Gianni lo fece, anche gli altri, li arriverai sicuramente molto forte. Vabbè dai, l'importante abbiamo fatto. E infatti non so come ringraziarti a te Massimiliano. Ma da lì non c'è nessun ringraziamento, le cose quando si dicono bisogna farle, non parlare bla bla, capito? Bisogna farle, quando uno ha necessità di fare una cosa e c'è bisogno della mano, bisogna darla. Non fa vita a mamma. Noi abbiamo fatto sopra l'uovo, io ti ho detto, tu mi hai fatto la domanda, cosa ne pensi? Io ti ho detto, si può piazzare, con difficoltà però si può piazzare, studiata bene si può piazzare, l'abbiamo studiata e l'abbiamo piazzata. E infatti, noi buciamo il gioco ai suoi, mo battu oggi noi. Vabbè, no problem. Vediamo un po' qua. Chi su cane che ha ogni abbaggio a chi mi ha detto con Rubanino, perché gli piace il pane fresco a questo cane, io non ne voglio fare. E lui abbaglia però. No, il pane fresco il cane non è consigliabile perché c'è amido, capito? Io frippo gli olò ma quando è duro. Quando manca lo metto a parte, lo faccio indurire e poi mi tiro con un buongiorno e domanda se mosa se lo rosicchia tutto. E le fa bene, ma il pane fresco no. Ma lì appena sono entrato mi si è presentato da un attimo, era tutto via Ghetti. Te la senti via con di Filippo? Sì, sicuramente, così ha detto il fatto concetto. L'odore di Filippo ha sentito, per quello che tu stava, perché è diffidente quel cane, mi fa, vedi? Magari Cesare è parenti da Riccardi su quella baggia, e lo sa che è lui, guarda, cosa c'è? I ladri? I ladri? Ma non si conosce. Cesare il Monello, sta. Ehi, comunque è piccolo, ma è un bel attento quel cane, l'ho visto che è molto, molto vispo. E quella iatta non si incrocia, né non le va tenuta la iatta. No, no, non gli fa niente. Gli tira le manate, ma non toglie fuori le unghie, se no l'avrebbe la faccia a ciglietti. Perché lo vede che cucciola, va picco, lei c'ha di 11 anni già, quel gatto. È femmina quella lì. Già ho visto, ho visto. Cosa c'è Pippo? Mi Natalino, c'è mi Natalino. Trombati a Natalino, trombato. Ah, Filippo, vero è? Cosa vuoi fare? Mi vuoi trombare la gamba? Filippo, salendo Massimiliano, mi ti fa nuovo nuovo, ti fa. Bene, Massimiliano ce lo tromba. Massimiliano non va a vedere, Massimiliano è con i vostri, vero? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Mi? Senti. Chi? Chiama. Filippo, chi è questo cane bello? Ah, chi è Pippo? Adesso dritti, chi è? Concetta. E dov'è? Ma roba come mai bene. Ehi, lo facciamo diventare scemo così. Così se sente che c'è Massimiliano, mamma mia, perché lui gioca. Allora, Massimiliano è il di vostro, voglia fare i barri, voglia tutto a colpo, appunto. Telefono, un minuto arrivo, ripeti Marco. Eia. Eccomi qua, mi sono messo la giacca perché c'è freddo qua. C'è stufa, ovviamente non la stiamo più usando, però qua sempre finestra aperta e coso, arrivano spifferi. Mi stavo pure stanottendo, quindi non mi voglio pigliare un doppio malanno, mi sennò qua finisce male. Ah, ti stavo dicendo, adesso quando entra e mi sente Luca Del Monte, ui ui ui, hai visto io la video voci con l'antenna della macchina, ce l'ho qui quell'antenna, gliel'ho fatta vedere a coso, lui si credeva che io stavo usando l'antenna bazooka, invece mi ha detto quella della macchina stavo usando a Massimiliano, mi ha fatto vedere di antenna Ida. Adesso quella la devo smontare, me la pulisco bene e me la metto in macchina. Eia, eia, eia. Sì, quella, la basetta ce l'hai? Eh beh, giusto, sì, c'è. Se riesci, hai detto che è facile, levi la basetta che avevi prima e metti quella P1100. Se puoi mettere anche il baracchino in macchina, a voglia. Ehi, ce l'ho quello piccolino. Ma sto optando per l'altro. Tu che si macciappa in ghiaccio, hai un ghiaccio. Ma chi ti acciappa? Polizia e carabinieri non gliene frega niente, non ne sanno nulla di normative europee, allora vogliono vedere il documento e il bollettino, anche se non sanno cosa è, cioè a me chiedono la licenza, non è una licenza nemmeno, non so come spiegarlo, non è nemmeno una concessione, boh, è una... Non è nemmeno una richiesta, è una domanda di inizio attività, cioè ti stai comunicando che stai iniziando l'attività, non è più una richiesta come era prima, perché loro ti rilasciavano la concessione in base alla richiesta, questa invece è una dichiarazione di inizio attività e boh. E poi il bollettino. Si chiama denuncia di inizio di attività. Sì. E quindi in macchina, io li ho sempre portati, ho messo l'Omega Force e l'altro, il 3009, di tutto e di più ho portato in macchina, capito? A meno che, te l'ho detto, non sei così sfigato che ti trovi il furgone delle scopose a fianco, ma quello è proprio... Una sfiga nera. La sfiga nera. Adesso non so se quel piccolino è omologato, ma penso di sì. Quello che mi hai fatto vedere a me. Ehi, i luminari minori. Ce l'ho in macchina, ti ha fatto in macchina. Sì, ma ormai tanto omologazione non ne guardano. Ma che sia 4 watt e 40 canali e già passa la dogana. Datemi queste omologazioni di adesso, non valgono nulla, sono, non c'è più la targhetta, c'è scritto qui no, qui CE0341, e beh, cosa vuol dire? Invece in questo non omologato c'è scritto CE0700, e cosa ne capisci? Nulla. E infatti, nulla ne capiscono. Sì, ma se trovi quello che se ne intende, vedo questo spazio di roba, guarda. Ehi, vabbè, non si attaccheranno a quello, dai. Ma io ci provo. Così me la metto bene a posto, l'antenna, e quando devo uscire l'attacco e via. Poi io ho riscontrato che in macchina il Superstar 3009 è il più silenzioso. Di tutti quelli che ho è il più silenzioso. Forse sarà meno sensibile appena appena, ma è il più silenzioso. Ed è quello che preferisco in assoluto, dai. Anche di più lo preferisco rispetto a questi digitali. Sì, questi hanno nome di roba, ma alla fine... Sono contento solo di una cosa, dopo ti telefono che ti devo dire una cosa. Eia, riprendi Massimiliano, Sandro se n'è entrato, non vedi nessuno. Tutti andati se ne sono, quasi nella rivisione da cui si avviano. Come hai detto tu, sedotto e abbandonato. E allora, sedotto e abbandonato. Aspetta un attimo. Marco! Ecco. Guarda l'MD più 4 col President, adesso ha ripreso a funzionare, perché me ne accorgo che lo vedo. Eia, sì, sta uscendo. Forse c'è meno cupo che non col... con Omega Force, lo sai, e sì, sempre 9.45. Io lo so, forse perché nell'Omega c'è il doppio modulatore, magari lo tolgo e esco più chiaro. Può darsi, ma poi sai cos'è, anche senza il turbo modulatore, quell'apparecchio di default, cioè fisso, c'ha il compressore, e quindi sai che cioè non è un baracchino normale che esce liscio, no? C'è anche il compressore dinamica, che può darsi che si aggiuffi con l'MB più 4. No, lo sto usando col President. Sì, adesso ho capito, sì. Con Lincoln, no? Eia, ho usato quello misto, lo sto usando con il President, pochissimi watt, 10 watt. Qua il segnale è sempre quello, non cambia. Adesso voglio vedere cosa mi dice Claudio, va. Quando entro, mi piace questa modulazione di questo MB più 4 con il President. Sì, è bella forte, sentono anche, vabbè, rumori di fondo. L'importante è non parlare troppo lontano dall'MB più 4. Io di solito non vado mai più lontano di 30 centimetri, perché poi comincia a sentirsi troppo in bombo della voce, capito? Ma cogli tutto, ma cogli, è un me sensibile. Poi tu hai anche modificato, no? Gli avevo messo in corpo, non mi ricordo che cosa, bisogna che lo guardi. Io il mio l'avevo lasciato vergine, perché tutti hanno detto che usciva più forte con la modifica, ma ho messo la manetta e usciva fortissimo, cioè forte, beccava tutti i rumori dell'ambiente, infatti ho detto più di così cosa vuoi aumentare, poi diventa troppo forte, dai. Sì, infatti, ma vabbè, accontentiamoci di quello che passa il convento. Ehi, già è bella come stazione, c'hai un bel di apparecchiature, c'hai il posto anche per metterle. Te l'ho detto, al limite, se in futuro per i DX ti servirà il minaretto, il 747, naturalmente devi avere un alimentatore. Da quant'era il tuo? Da 30 ampere? Ehi, 35 ampere, poi c'ho quell'altro da 30. Lì ha voglia, Natalì. Il 747 consuma massimo 10 ampere. Ha voglia, se ti basta, ne puoi mettere 3. Lo so. Ma vabbè, per il momento viaggiamo così. Che soldi non ne hanno mandato, sono povero in canna. Oh, ma Oggi è venuta mia zia e nella sua grande magnanimità mi ha regalato 100 euro. Però dice valgono sia per Pasqua che per San Marco, che è il 25, capito? Come dire, 50 Pasqua, 50 San Marco, vabbè, 100 euro. Poi mamma, a parte che fine mese mamma mi dovrà restituire, avanti vostro conto, 60 più 50 più altri 60, figurati. Quindi allora la pensione. Insomma, sono pochi ma mi accontento. Devo stare attento con le spese perché ho le mani bucate, però non va bene, i soldi me li devo tenere per le cose normali, tipo andare alle cene, pigliarmi un gelato quando voglio, un caffè quando voglio, no, quindi spendo tutto in cose di dubbia utilità e poi sono sempre senza soldi, cioè io appena soldi me li spendo tutti e poi rimango senza, capito? Infatti, non va bene così, se ti spendi tutto subito, poi non ne hai. Io vabbè, li ho spesi perché avevo delle cose da fare qua in casa e quindi li ho spesi per quello. Se no a buttarli via i soldi non fa. Giusto. E io sapevo cose così da. C'ho questa mania di fornelliti di tutti i tipi. Fornelletto a pellet, quello ad alcol, mi è arrivato da poco quello che funziona con un gel a base di alcol e funziona bene, ho già provato. Poi c'ho quello con le pasticche di combustibile solido, poi c'ho quello ad alcol, non gel, alcol, vero alcol, capito? Alcol liquido. Quindi in caso finisca la bombola già ne abbiamo fornelletti, poi con la gas vabbè, lo sapevi già. Oh, ne ho visto uno dalla Cina, mai vista una cosa del genere, un fornello a cherosene, sembra una piccola stufa, pare una piccola centrale nucleare, è praticamente un fornello a cherosene, mai visto, costa solo 16 euro, quello lo voglio però Io non me lo devo comprare io, lo sai cosa mi è successo oggi, tra cappa e collo, già c'avevo mal di schiena, mi si è finita la bombola del gas, sono dovuto andare a prenderla, meno male che qua a fianco al tabacchino, il negozio delle bombole, sono andato, l'ho presa, quando proprio stavo cucinando la minestra, Avanti. Ciao Marco, ciao Natalino Franco. Ciao Franco, guarda Natalino ha piazzato l'antenna nuova stasera, vedi di dargli un controllino, vai Natalino. Guarda Franco, non mi ascolti. Mi stai rompendo le orecchie qua, mi stai neanche slaterando, comunque non sono a casa, sono in baramobile e sto provando anch'io un antennino in macchina. Mi sentite bene? Sì, avanti Natalino. Bene, ti ascolto benissimo. Quando sei a casa tua voglio vedere come ti arrivo lì. Mi interessa sapere come arrivo da te. E me Fra, lo senti adesso Natalino? Oh, ciao Cla. Non sono a casa però Cla, ti riprendi? Abbiamo montato l'antenna poco fa, abbiamo finito poco fa. Sicuramente ti arriva più forte di me perché sta arrivando 9.30 qua. Adesso più o meno siete uguali voi due di segnale, ma conta che io sono verso Canica. Vabbè, ma quando vai a casa tua mi disintegra. C'è anche Massimiliano Bulldozer, avanti Massimi. Massimo, forse si è allontanato. Marco. Eia, sono qua. Stavamo parlando fino adesso. Eia. Ah, Canica, però vedi, adesso per dire, siete già pari di segnale, buono. Forse a me. Forte c'è Natalino, forte. Eia, immagina quando avrai il 4.30, 4.40, quello che è, con 50 watt di portante muta e il resto modulati, figurati da lì, ciu, fa le scarpe a me adesso, anche a te. Ma io lo sapevo, l'ho letto da ieri, che quella zona è una zona ottima per Sassari, anche fuori Sassari, è chiaro che ci vuole un po' di potenza perché in certi casi magari tipo Alghero vedi c'ha Monteoro davanti, però un 7 diretti a Porto Torres con 10 watt è un ottimo segnale, cioè lo sapevo questo, me lo immaginavo, quindi non è che ci siano problemi, capito? Ehi, Giuseppe, non ho capito se lo sentivo o no, Giuseppe D'Alghero, non capivo, anche perché arriva un po' basso, Giuseppe, aggiornate in base al Coreme, non lo sento bene. Ehi Giuseppe, vedrai, settimana devo finire un lavoretto, e anche da lui c'è il sistema dell'antenna e tante cose da fare, ci sono anche lì, tu lo sentirai molto molto meglio di come lo senti adesso, sì sì, lo sentiva basso ma lo sentiva, tenendo conto che Giuseppe è una zona un po' molto difficoltosa, ma soprattutto c'è una gran play, quindi è così, va bene. Avanti fra, come vai c'è a Canica? Sono a lavoro fino alle 21.30 più o meno. Ah, sei in macchina quindi? Sì, ho messo una magnetica con un antennino. Se ti ha rotto arrivi, bene, bene. Su male, dai, ci accontentiamo. No, arrivi, non è una difficoltà, io figurati, te l'avrei detto. Avanti, Natali. Ehi, io pensavo che era Franco di Sorso, invece l'altro Franco, che... Me ne sono accorto più dalla voce che era qui il mio vicino. Minimo gli spacco le orecchie quando arriva a casa sua. Mi toccherà mettere l'attenuatore. E chi è questo? Che sto facendo male? È Natalino che è vicino a te e abbiamo montato l'antenna. Ah, a Fonoscala ti arriva. Parla Natali. No, non ci voglio parlare con te perché tu sei Luca Pugioni. Ah, io ho un bel biscotto, la merda. È un bel fuoco alla radio, è un bel... non lo so. Ho anche attenuato, lo sento male lo stesso. E glielo dico, sei 9.30 in oggi, è 9 più 30 qua, immaginati tu da te. E cosa vuoi che ti faccia? Non c'hai niente da attenuarlo. E poi sono col presidente Cla, non sono con l'altro. Sono basso basso. Sì, non vuoi dire, basso basso, sì, 9.30 qua. Perché Luca anche a Salvatore riceve così, è troppo attaccati siete. A 9.30 mi sta arrivando Luca. Cosa 9? E vabbè, tutti siamo a fondo scala, Ora io sono col presidente adesso e sono basso basso, non sto parlando con l'altro. Era per farlo sentire a Claudio questo. Arrivi fortissimo, dai, non c'è problema. Comunque saluto a tutti, dai, sono appena arrivato a casa. Ehi, a Lugari, noi eravamo a Massimino, a fronte dell'antenna Natalino, oggi dalle 3 abbiamo finito, erano le 6. E niente, ok, va bene, avanti Marco, tu crepi a tutti Marco. Ok, mi aggiorno. Ciao Luca, ben entrato. Beh, sai perché satura? Perché è troppo, è molto forte in radio. Qua non satura, perché questo baracchino non satura. Lo sento bene Natalino. E beh, lui, hai visto che di fare già il segnale adesso che c'ha Natalino? Sì, ho visto, un segnalone. Se c'è mi arriva Popite, pensa tu. Che ce l'hai piazzato? Quella come... Lo passo. Marco, la Energy, quella della Midland, quella leggera, va. Perché qua la Mantova non la vuoi piazzare che è troppo bizzanti. Guarda come ci sta arrivando adesso, dai che sono con l'altro. No, io fondo scala, posso dire la fondo scala. Anche l'altro, adesso non mi ricordo il nome, lo stesso arriva forte. Avanti, non mi ricordo il nome, come si dice, illuminami. L'altro era il presidente Lincoln con l'MB più 4. Capito. Questo invece è l'Omega Force. No, l'altro paracchino, l'altra persona che stava parlando prima, non mi ricordo il nome. Franco, in macchina però, vai fra. No, forse sarà Marco che arriva forte, io non credo. No, Franco, ciao Franco a te. No, sei tu, dai. Ah, ok. No, io ti sento bene uguale. Anche Marco arriva molto bene, ha una bella radio molto chiara, pulita. Insomma, quello che arriva male sono io allora. Sto usando il 9009, CRT 9009, e sono 10 watt tondi. No, arrivi molto bene qua. Mi piace molto la radio. Semplice, tranquilla, senza vizi. Una bella radio, complimenti. E allora quello che arriva male sono io, fra. No, come segnale è un pochettino più basso, però la radio è forte. Invece Natalino c'ha dei picchi di modulazione bestiali, proprio allucinanti. Natalino arriva forte, sì. E Marco è più vicino a te dove sei adesso, capito? Lui è giù in Viale Trento, io già lo sai dove sono. Beh, siamo soddisfatti, dai. Sì, complimenti a tutti, un ottimo lavoro avete fatto, hai visto Natalino? Con fatica, ma siamo riusciti nello scopo. Oh, Lu, tutto in facciata, senza poggiori e senza niente dalle finestre. Avevo alzato decimetri di dubbio. Una cosa allucinante, mai successa nella mia vita nel montaggio delle antenne. Ora ti mando la foto. Tutto in facciata, 10 metri di tubo. Facciata. Oh Claudio, ma come avete fissato il tubo alle staffe da parabola? Io ho portato un piantone e te l'avevo detto, avevo fatto un sopralluogo, mi ho studiato tutto e non è che capito, perché quelle a parabola sono a tasselli chimici, invece quelle là sono molto più deboli, quindi sono quattro fori a tasselli chimici, quindi abbiamo usato quelle. Ho usato un piantone che entra, che praticamente doveva entrare nel montaparabola, quindi un piantone da un pollice e mezzo con l'altro da un pollice che esce e poi tutti gli altri elementi a innestare e a tirare su. Però il problema del lavoro che noi abbiamo fatto qual è? È che l'abbiamo assemblata a terra 10 metri, quindi tubi tutti già pronti, già tutti tirati fuori, stretti, il cavo tutto fascettato, poi abbiamo dovuto tirare su 10 metri di antenna, capito, in due, con l'aiuto di Natalino, l'amico Natalino dal terzo piano con la corda per tirarla su, quindi una cosa. E poi io mi sono messo al primo piano, loro dal terzo tirando, mi ha aiutato Massimiliano da sotto, io ho centrato il piantone nel porta parabola, l'ho entrato dentro e loro l'hanno staffata sopra palo palo. Non lo so, già sono andata a casa di Natalino, l'ho visto dove c'era. Un attimo, mando la foto, vai. È stata una bella impresa, Perché, vabbè, io con Pomponi era anche troppo facile, perché eravamo sul terrazzo, poi c'era il gabbiotto, no? È stato facile, ma lì è stata proprio un'impresa. Sì, ma la foto sopra il balcone dove l'ho mandata? La foto sul balcone? C'è una cosa un po' allucinante. No, comunque, già va bene. Riprendi, Massimi, sono contento, vai, è muovato. La foto non me l'hai fatta sopra il balcone, pure il balcone? No, quella mi sono dimenticata perché ti stavo mantenendo. Figurati, ho Marco che sa che Massimiliano è salito sulla finestra del terzo piano per legare l'antenna e staffarla con la staffa all'interno, quindi io mantenendo lui dalla finestra, ti dico da non vedere queste cose. Grazie Natalino, non potevo fare le foto. No, meglio non farle vedere perché sennò ci arrestano proprio. È meglio gagliarsi un nato che se. Mamma mia, quando ci penso, per carità, come sto. E poi a mantenere io, Massimiliano, figura di due, più grosso di me, più robusto di me, a mantenere Massimiliano io, mamma mia, va. Il sudore, stavo sudando freddo. No, ma la mia paura non era tanto stare sulla finestra, è che la soglia della finestra, sotto la soglia, era vuoto, capito? Cioè, non c'era il piano della soglia. Quello è il problema, Massimiliano. Cioè, sono case anche molto storiche, quindi bisogna stare molto attento. Ha visto, togliendo quella staffa, lo devi tenere in giro, mi si raccoglie tutto il cantone bianco a faccia, dimmi lui. No, dico, è un lavoro, è catta. Come lavoro? Purtroppo lì devi stare attento, c'è uno di buchi castefani che lo che ti in atto. E niente, buchi che ne attaffa, ne fanno un motore in garage, c'è mai ammazzo Massimiliano, ne fanno mezzo cantone. No, lui ha fatto sopralluogo una ventina di giorni fa, prima di arrivare l'antenna. E ho studiato bene le cose, perché sennò, se non ci ragioni con la testa, quell'antenna non l'avremmo mai montata. Ah, sei un capolavoro proprio, porca pupazza. Un capolavoro che è arrivato a da lì, Che lì era impossibile. Io non ce l'avrei fatta. E e pure altre persone hanno detto che non era possibile, eppure noi l'abbiamo fatto. Grazie a Dio, mi è servita la quinta geometri Lugarie. Quanto me l'auguro, è bello, bello, ma arriva fortissimo anche. Io penso che farà anche qualche collegamento adesso, dai, qualche DX. E vabbè, pure Massimiliano già è abbastanza agile, è giovane ancora. Vabbè, cazzo, oggi Vittano, oggi buon peso. Allora, Vittano è anche, va, guarda in me. Allora, tu immagini che tu piantoni da un pollice, da due pollici, no, un pollice e mezzo, un pollice, che pesano più dell'antenna dei pali che aveva Natalino. L'avevo portata dritta a terra, a decimetri, liata, io tirate, tirate, tirate. Poi io sono salito su a centrare il buco, quindi Massimiliano con la scala fuori, facciata, tutto in facciata, secondo piano e terzo piano, finestre, tutto dalle finestre abbiamo lavorato. Un bel lavoro è venuto veramente. Va bene, quelli di davanti facendo il tifo. E allora, che mi attende un bar, io, dai, dai che ce l'ha fatta, dai che ce l'ha fatta, cazzo la pazza che vede varia. Stiamo per bene, invece di metterne due fascette ne metto una ventina. Altro che scala da 9 metri. Ma lì devi ragionare con la testa, io l'ho fatto sopra loro, con Natalino ho visto le difficoltà che c'erano, però chiaramente ci studi sopra, ci ragioni sopra e riesci a fare le cose. Non è a fare Pitagora bocca, l'ho preso, eh. La soddisfazione più grande è che quando uno dice si può fare, lo deve fare, se no ti cagli, se no sei un qua qua qua. Devi fare quello spot, noi siamo scienza, non fantascienza. Fatti, fatti, non parole, fatti, non parole, qua, qua, qua, qua. Fatti, non pugnette. Shabau. Atta lì. Eu. No, fatti, non parole. Qua non ce n'è qua, qua, qua, malo pagadores. Sai come c'è Natali? Ma, che cazzo c'è? La casa è piccola. Se no, chi ci aveva fatto tutto la station, non ti va via prima tutti i radio, 440, tutti i radio automatici, ci va via prima le antenne fatte come Dio comanda, nel senso, c'è cioè, tipo la Mantova, poi quel tipo famoso fatta a scala. Ma noi avevamo una rete in facciata che abbiamo usato per fare la saetta. Lì adesso Natalino costruisce un dipolo, capito? Un dipolo multibanda, la casa in equipe con la carrucca lo diremo, da una casa all'altra. Dai due lati di Corso Trinità, mi, da un lato all'altro, mi, davanti al tabacchino lo tirate. Tutto il vicolo mi prendo, cos'è il tabacchino? Non abbiamo bisogno di uscire dal tabacchino, tutto il vicolo mi piglio. Uia, ma in effetti, senza scala d'altro, le scale 9 metri, hai visto? Una scala telescopica da 3,50 m ci avrebbe, non hai capito, per arrivare all'innesto del tubo blu. Non va più altro, cosa va via a me? Cosa ci avevamo? Fatti ci vogliono, non parole, qua, qua, qua, qua. Qua, qua, visto là che ho preso 40 metri di corda e sono serviti. Sì, Natalina, avevi ragione. Ti do ragione perché senza quella corda non ce l'avremmo fatta a tirare su, eh. Non ce l'avremmo fatta, Natalina. Vabbè, comunque, va bene così. Va bene così, ottimo per la truppa, va bene, va bene. No, comunque lì non è finito ancora a tutti i dini Marco. Lì ancora dobbiamo saettare qualcosa, che ci abbiamo una staffa libera. Che figlio di tuo figlio, di buona staffa. Cesare, non si chiama il figlio, Cesare. Beh, Cesare, ho già detto, guarda lì, io cambio la staffa e chi mi buonimo la staffa, paro paro, e ti buonimo la antenna, bu. Ah, vero. No, ma che, a buffonendi, non ce li hai le staffe. Staffa, paro paro lì, la staffa che è rimasta, che non abbiamo saettato, e lì ci mettiamo un'altra antenna, con un tubo, che arrivi all'altra, burumi. Ah, vero, si può fare. Certo, lì mettiamo un'antenna, una X300, ci mettiamo, capito? Lì ci mettiamo una X300 per il ricevitore, staffa paro paro, antenna VU. Sì, sì, hai ragione. Tanto il cavo già ce l'ho. Oh, Claudio, ho notato che i radiali in quella foto praticamente quasi non si vedono. Si vedono quando sono belli illuminati dalla luce del sole invece. Perché la facciata di quella di fronte è sul giallino, il muro è un po' particolare, però stai sereno che sono 1,5 metri fuori dalla mantovana i radiali, l'antenna è tutta fuori. Eia, no, perché Luca non so se se ne sia accorto lui, ma già l'hai visto che ci sono 3 radiali, sì, perché non si vedono quasi in foto. Sì, 3 radiali sono, ho visto. No, magari va fortissimo, ma ragazzi. Ma lo sentiranno pure lì. Torna l'Alghero sicuramente. Anche lo 7 arriva l'Alghero. Cazzo! Ma gli hai fatto tutte le trazioni, gli hai tratta tutta qua. Tutta, dal canale 1 al canale 80 c'ha 0 di stazionale, non le usa il correttore. Avanti! Avanti Black! C'era Franco anche. Sì, avanti Black! Oh, avanti Franco! Stavo ascoltando, quindi avete fatto i funamboli oggi Claudio? No, fra, guarda, ti mando le foto, no? Una cosa indescrivibile. Molte difficoltà, però ragionandoci siamo riusciti a fare una cosa fatta bene. Allora dal canale 1 al canale 80 c'ha 0 di stazionari, lui c'ha la correttore che se l'ha comprato non ne usa, caratta alla perfezione, un culo allucinante. Quella si è curata a 55 metri. A te avete parlato in due, cos'hai detto lui? Ho detto, ma posso immaginare che non c'ha stazionari. Però sai, dovremmo ritravagli noi e tu ne hai avuto l'esperienza, non ce n'è per nessuno. Ho detto, il correttore servirà per andare sui 45 metri. Non ci vado io lì, poi non ho niente per andarci e non ci vado che non mi conviene. Ma io ci andrei, tu c'hai l'antenna, c'è la correttore HF, accordi, fatto, sei già lì. Lì si chiama Natalino, si chiama Antonello. Tutti 45 metri andiamo. Bene. Ah, Natalì, quanti metri di cavo coassiale hai lasciato alla fine? Mi ha comprato 40 metri e sono passati 20. Infatti lì tutti ce ne volevano, dai. E gli altri 20 possono servire per altre persone, per nuove installazioni, tipo la X5000. Dice Natalì, provocatore questo Marco, che ha detto che quel cavo serve per mettere l'altra antenna nell'altra staffa, e ci abbiamo anche un'altra staffa libera. Natalì, e adesso quella canna da pesca? Devo costruirmi la Game Master. No, te la fai a canna da pesca davvero, mi. No, ci fai un'antenna tipo Blue Moon, mi, per tutta l'HF. Puoi ricevere tutta l'HF, però bene. E allora mi faccio l'antenna multiband, però è corta quella, vuole 10 metri. No, bastano 6 metri, fotti dinni, anche 6 metri vanno bene. Poi ci vuole un correttore sotto, mi pare, tipo Unun o Balun, non mi ricordo come si chiama, che sia, non lo so, tarato per quelle bande. E accordando poco a poco ti fa tutte le bande, lo sai, 10, 15, 20, 40, forse anche gli 80, vabbè, però è un po' corta. Per gli 80 è corta. Io già ce l'ho il dipolo multibanda costruito da me in campagna che fa tutto, anche il 27 entra. Ehi, guarda, c'è quel radiatore che la fa, non è altro che uno stilo, che può essere di alluminio, può essere anche tipo canna da pesca, sotto ci mette un balun oppure un, non ho capito quale usa, ed è regolato in modo da risuonare sulle bande amatoriali, capito? E il bello è che puoi ascoltare anche bene, una volta che l'antenna risuona sulle bande principali, non è solo a trasmettere, no, per dire. Poi appena ti pigli la patente amatoriale, c'hai anche l'antenna pronta, cosa vuoi di più? Infatti. Ma io fate girare, Luca riprende. Vabbè. Un attimino che sono al telefono, ragazzi, arrivo subito. Sì, lui, Mission Impossible, mi, come il film. Che quello teneva di peso quell'altro, mi, che si calava nel cavo dove c'era il computer. Buonasera, sono io. Ah, Eugenio, capiti a fagiolo. Sei a casa? Sì, sono a casa. Natalino, vai. Aiuto, Eugenio, dimmi come arrivo a casa tua. Ma come arrivi? Buonasera. Come ti sto arrivando, Eugenio? Sì, a picchi di 7. Thank you per il controllo, va. E anche io ti sento. Oh, finalmente, da bello liquido, forte. Andare. una curiosità, Natalia, Eugenio, quanto ti arriva esattamente? Non l'ho guardato il segnale, perché stavo parlando con la 50 e non l'ho guardato il segnale di Eugenio. Comunque ho parlato con Sandro di Porto Torres dello stesso e mi arriva benissimo Sandro. Ma io ti arrivo basso. Guarda un po', io ti arrivo basso. No, arrivi sì, con picchi di 7, sì. Non mi arrivi basso, gli arrivi bene. E abbiamo lo stesso segnale, dai. Ah, Nathalie, ricordati che lo smitter di quell'apparato dell'Omega Force è un po' cieco, quindi se quando uno ti arriva a 5, quando ti arriva 1, 3 no, di segnale, in realtà è di più, capito? Quando ci avrai il K ci avrai uno smitter anche professionale. Lo so, purtroppo io ho letto sì il segnale di Portante, poi lui aveva il picchi fino a 7, capito? Quello che ho letto gli ho detto. Eia, buono, beh sì, se arriva sì, con picchia 7 sta pure tranquillo che può essere benissimo anche 8, Santiago 8, buono. Qua arriva 8 Eugenio, quindi sicuramente anche da te è quasi 8. E tu sei più in alto Marco, sei più in alto di me. 7 arriva là, no, ma arriva bene dai, almeno ci posso parlare, cavolo. Prima non sentivo nessuno. Eia, sai cosa mi frega a me, Nathalie? Che io sono più in alto, ma c'ho 50 metri di cavo. Non so se mi spiego, 50 metri, quindi c'ho perdita un po' in ricezione e anche in trasmissione, non molta però. Ok, dai, sono contento. Eugenio? Sì? Stasera non so se hai mai copiato, mi sono mangiato 2 uova fritte alla faccia tua. Sì, ti ho sentito, è per quello che ti ho risposto. Eia, guarda, le uova per me sono il cibo degli dèi, sono una cosa eccezionale le uova, comunque le fai sono sempre eccezionali, e a te fanno senso, purtroppo non è così, boh. Chi è questo qua? Oh, scarica, stavo scendo, chi è? Boh, comunque io sono anche senza il turbo modulatore, sono liscio, perché sennò magari troppo voci e fotogazzini. E quanti watt di portante muta? Allora, 20 watt, mi ha detto di lasciarlo così Claudio, io lo stavo mettendo a 10, non c'era neanche bisogno di metterlo a 20. Ottimo, ogni tanto tocca il dissipatore dietro, mi controlla che non scaldi troppo, mi Nathalie, se no buscali una ventola, perché io l'ho cercata mi per il tuo baracchino a casa, ma in più non ne ho, purtroppo l'unica l'avevo usata per il lineareto mio. E già si buscano, già c'è Luca che me le busca. Vero Luca? Un altro che c'è non c'è me. E adesso si starà sbaciucchiando la fidanzata, quello, pensando a Nusta. Giusto. Mia zia anche oggi mi ha criticato le radio. E dice tu sei sempre. Fai altro che stare appresso a queste radio ricce trasmettenti. Se pensava al manico me, invece di passare alle mie radio. Non la può vedere. Giustamente lei gli hobby degli altri non li capisce, lei concepisce solo i suoi hobby. Il suo hobby è lavorare, non è un hobby, il suo hobby è lavorare, capito? Lo fa altro lavorare, è una nevrosi, l'ha detto anche lei. E cosa faccio? Ho detto, se mi levo il baracchino non parlo più con nessuno, mi guardo il muro, mi fisso il muro, non ha giù un peso. C'ha sempre da criticare, c'ha. Tu dici la tua zia, che manici ce ne sono in giro? Zitella, ma buona è Marco. Passa via. Mamma mia. No, passa via. E purtroppo lì è preferito così. Però c'è hobby, te l'ho detto, lavorare, non c'è altri hobby, sta sempre facendo, dice che a stare ferma pensa alla morte, capito? E ha riconosciuto che la sua è una nevrosi. Cioè a lei stare ferma come faccio io non ci può stare perché è come perdere tempo vitale. E chi è questo? Non saprei, adesso arriva un po' basso, chi è avanti a pigliarla? Lo sento io basso. Ehi, non so chi è, non ho riconosciuto la mia voce. Oia, vediamo se è entrato Claudio. Ah, oggi sono sui sciopero. E nemmeno doppio rum è entrato. Attenzione, doppio rum. Ehi, avanti, buonasera. Natalino. E beh, già. Mi sto facendo un po' di vaporetti a casa, mi sto salutando, però... Ciao a tutti, buonasera, però... Sto terminando i bambini della politica, non posso farne a meno, perché sennò poi mi tocca fare i denunci. Quindi, meglio farli adesso, ti ascolto, tranquillamente, e sappiate che ci sono... Chiedi un controllo, Antonio. Già intervengo. Aspetta già, guarda il segnale a vedere come si sta arrivando. Hey, pittina, manco un controllo mi dai. Ma te l'hai piazzato? No, ehi, ma io me ne sono accorto dalla radio pure che era forte, bella forte. Aspetta che mi metto gli occhiali, poi te lo do giusto. Ok, dai. Oh raga, io vi saluto, devo fare cosa? Ci sentiamo più là, ciao. Ciao Eugì, alle prossime dai. Avanti Marco. Sì Eugì, oggi non c'è tanto mordente, c'è un po' di assenza, un po' entriamo, un po' spariscono. Sarà l'agitazione, la frenesia di questa installazione. Ciao Eugì, dai. Allora vai Gianni. Ma Marco, tu che attendai, avanti. No, no, io ho la Energy 5 ottavi, o meglio, per meglio dire, la New Energy 5 ottavi, come quella tua, come quella di Natalino. Bravo Natalino! Perfetto, va bene, aspetta, via, ciao. Aspetta, Gianni, guarda un po' il segnale, dai. 9.30, sì, qua, spaccato. Alla faccia. Cos'hai messo, l'antenna nuova? E come quella di Marcolino l'ho messa. Anche azzeccato la taratura, niente stazionario, infatti sono senza accordatore. Sì, ma io sento, vabbè. E come l'hai messa la linea, facciata? Eia, se vedi come l'abbiamo messa, ti metti le mani in testa. Cosa l'hai messo? Tasso rimurato? E sopra due staffe di quelle per parabola, dove entra a rubare un vento e via. Vabbè. Già andava, interessate che sia sicura, che non si muova. E è andata a sera. Hanno sollevato di peso antenna e palo di 10 metri dal terzo piano, l'hanno sollevata con una corda, immaginati. E chi c'era? Chi c'era? Non avevi mai interpellata? Guarda, c'era Bulldozer e Claudio. Ahi, vabbè, c'erano in tanti. Io, vabbè, non so se ci eravamo sentiti, io sono stato male a Pasqua, molto, mi è venuto quel disturbo e quindi sono in convalescenza, dai, non posso uscire nemmeno. Io ti ho sentito, non l'hai detto, ci avevi male. Paola, continua a fare le facce, ci sentiamo dopo, Natale Kruger, benissimo, auguri. Thank you. Ma vuoi vedere il lavoro? Te lo mando il lavoro, Gianni, che abbiamo fatto, da paura. Manda, lo manda, lo voglio vedere. Poi Claudio, quando posso, gli faccio le foto in dettaglio, faccio vedere proprio le giunzioni con le staffe, faccio vedere l'antenna con lo zoom in primo piano. E poi mi piacerebbe trovare un punto lontano dove si veda l'antenna di Natalino, però non so da dove posso riprenderla. Dal tabacchino. Ti do la macchina fotografica mia e le fai con la mia le fotografie, vedrai che... Sì, pigli tutto. Ma se io vado al Ponte Rosello e inquadro la tua zona, si vedrà l'antenna? E boh, non ci ho provato da lì, noi abbiamo visto che si vede da Corso Trinità, dal tabacchino si vede. E poi dal tabacchino vedi anche tutto il tubo, tutto vedi praticamente. Via, buono, buono. Meno male, sono contento che l'avete fatto uscire abbastanza anche dal tetto, meglio così, meglio così. Come vedi la taratura è stata anche perfetta. Hai avuto fortuna, invece io ho seguito proprio il manuale, la regola, eppure secondo me in base all'altezza, in base al palo, in base al cavo, magari il cavo non c'entrerà, è venuto basso il centrobanda mio, capito? Però non dà problemi, fino a 80 con pochi watt non dà problemi, magari quando usi il linearetto è meglio dargli una ritoccatina di accordatore sui canali alti, capito, vicino all'80. E infatti io problemi l'ho azzeccato proprio e quindi avendo uno e uno va bene, se vedo trasversale, allora giustamente inserisco l'accordatore e accordo. Sì, ma per accordare dovresti andare, caspita, o sui 30 MHz, che quello non ci arriva, o sui 25 MHz addirittura, capito? Non più giù, perché poi più giù ci sono i radioattori a 24.890, a 24.990, quelli sono i 12 metri. Avanti, chi ha detto boh? Scusate, abbiamo parlato in due. Vabbè, dai. Poi Natali, adesso fammi andare a bere, dai, che sono un po' a furia di parlare, mi si è asciugata la bocca. Gianni, e tu cosa stai facendo? Ripulisci delle feste? Allora raga, scusate che io al telefono non è che non vi potevo rispondere. Ho visto il segnale di Gianni. Gianni è 9.25, Natalino è 9.30 qua. Eia, vabbè, un po' più vicino, ma insomma buono, buono, dai. Poi arriva il Ghero, arriva il produttore, cosa vuoi di più? Adesso aspettiamo la zona Sorso Sennori, così abbiamo un'idea. Beh, certo che sì. Sto mandando a Gianni le foto di come abbiamo fatto il lavoro e poi vado a portare il cane. Io vado a bere un attimo, Scusate, mi sono assentato un attimo. Allora, io ho visto le foto, un bel lavoro, Sì, Lu, le difficoltà ci sono state, però il lavoro è stato fatto, si abbina le luci. Cosa stava facendo Gianni Natali? Come? Qua. Cosa stava facendo Gianni? Dove è andato? Aspetta che ha acceso il televisore mia moglie. Sono venuti a dire che sto disturbando, secondo Luca Budetti, ed è lontano chissà quanto, chissà. Non disturbo la mia che è vicino all'antenna, alla televisione. Ehi, non disturbo. Vai, la faccio in brutto, vai, che è chissà? Una che usava il baracchino tempo fa, però io l'ho mandata a fanculo mia moglie. Gli ha detto che non è un baracchino, che è altra cosa. Vai, la faccio in brutto, vai, se non disturbi tu, ma disturbi anche quello degli altri. Sono in capo a un lavoro allucinante. Allora, ma sono ingrandito le foto. Questo è un super lavoro, anche se diciamo gli spazi erano quelli che erano, poi lì ci voleva una scala come tutto là. Avresti fatto un lavoro proprio doc, più alto e tutto, ancorata su, ma comunque l'ho uscito bello. Luci, siamo arrangiati, l'ho detto, io ho tentato così, in caso contrario avrei rinunciato e portato l'autoscala, però ci siamo arrangiati con le funi e con le cose. Dai, devo portare il cane, ci sentiamo dopo ragazzi, arrivo subito. Perché abbiamo toccato nel muro e si è fatto un po' storto. Ah, comunque sì, benissimo, benissimo. Scommetto Luca che mi crepa. Ma una volta parlato assieme non capisco l'uno e l'altro, il segnale è uguale praticamente, è uguale. Sì, sono contento, dai. E beh Claudio, facciamo la segna le foto? No, sto mandando le foto a Gianni. Io mi sto preparando, sono già le 8, cazzo, devo portare il cane. Lui è il segnatore di Chia che faccio. Mazza te ne varia Massimiliano, a te roba con. E anch'io ce l'ho un po' di mal di schiena, Adesso dopo mi faccio passare la medicina. E Natali, voi avete tirato sul palo, quindi la forza l'avete fatta, Però a me cane di fianco togliendo, staffando quella dalla finestra e ho dovuto girare dallo contrario. Mission impossible. Ho detto che c'è la gente guardando, ci ha messo mai in testa, ci ha mai il vigile fuoco, sta arricchiando che... Vigili urbani. E io me l'aspettavo qualche pattuglia di vigili urbani. La stavamo facendo perché quando lavori così a terra e facciate mai ti dose effetti. Sì, non è che fanno sopralluogo e dicono questo lavoro è pericoloso, poi che ne hai tutto. Guarda, se qualcuno dovesse dire che è pericoloso io non so cosa potrei fare, perché io aggancio, metto un maniglione al tubo dell'antenna e mi metto a tirare con la macchina per essere scendo la staffa. Ci sono quattro bulloni passanti che mantengono le staffe a tassello chimico da 10, fate il conto, chiave 19, vedi tu. Ah, ecco, bulloni passanti anche avete. E a voglia allora, a voglia, ci puoi attaccare mi pure. Se ci puoi attaccare di peso e tirare non fa nulla. Marco, sorgente un attimo. Piazza e contropiazza, ma stai scherzando, ma di cosa si può far vedere? Mi si fa vedere anche lo sparviero, ma si fa vedere qua mi. Ho sofferto con voi comunque. E sofferto Massimiliano, lo devo mantenere la finestra per il pantalone. Minchia, avrei voluto vedere la scena, guarda. Le foto non l'ho potute fare perché era una mano, ci sono quelle da 20 kg, c'è su che. L'ultimo pezzo era micidiale, da temere forte era. E beh, proprio tutte le hai viste le foto. Ma mi ha chiesto che palo c'è, no, non ce n'è palo, c'è un palo dopo di cemento, c'è. Rosa, dai, vado a portare il cane, prendetelo in cuba dopo. Ok, sarà fatto. Io mi andrei a guardare un telegiornale, sono le 8, dai. Voglio vedere Trump cosa combina e quell'altro pazzo coreano. Beh, dai, fatemi andare a vedere il telegiornale, dai. Penso che ci sentiamo domani a questo punto, dai. Comunque lascio acceso. Ciao, Natali, ciao. Ciao, Marco, ci sentiamo dopo, dai. Natalino c'è gente, ciao. Via. Dai, se non so se rientrerò dopo, ritenetevi salutati nel caso, dai, ciao ciao. Buia, buia. Papà. Io sono già rientrato, Fra, ci sei ancora? Franco. Oh, dimmi qua. Ah, ci sei ancora? E io sono andato a portare il piano. Adesso ci mettiamo in sesto. E io intanto vado via perché sono ancora a lavoro, capito? Ah, c'è ancora lavoro? Va bene, frate. Ci sentiamo un altro momento allora. Che antenna avete montato qua? Che la guardo su internet. Una Energy 5 ottavi, leggerissima. Il problema è nato al fatto che abbiamo dovuto lavorare in facciata, ma comunque l'antenna è leggerissima, capito? Va bene. Anche nel poggio la puoi mettere tu. Ma è molto lunga, eh? 5 metri l'antenna, qualcosa. No, 6,50 metri. Di sopra. Ma 6,50 metri abbiamo misurato, sì. Dopo lunga, poggiolo, va a finire sopra l'altro poggiolo. Io si può fare comunque. Niente è impossibile, dopo quello che abbiamo fatto oggi, Fra, non è più impossibile niente per me. E ce la guardo, dai. Fammi sapere, prenditela poi, vengo io e te la piazzo. Nel poggiolo te la metto a te, dopo c'è il filo da stendere. No, se dovessi metterla metto su, direttamente sul tetto, dai. Sopra quella dell'antenna, del televisore. E anche lì va bene, anche lì si può fare. Aspetta. Lo regge un tubo d'antenna, dai. È comunque un tubo d'acqua, quindi non è il solito tubo per antenna. Allora Franco, quella della Midland New Energy 5 ottavi, c'è anche mezz'onda. Il bello di quell'antenna rispetto alla Mantova che si rende forse appena di meno, però è leggerissima, pesa 2,5 kg solo contro i 5 kg della Mantova. E se metti un palo basso non ha nemmeno bisogno di tirantare, proprio perché è leggera e sottile anche. È sottile, quindi il vento un po' la attraversa, capito? Senza piegarla troppo. Ma è questa, ne vedo una qua con 3 radiali sotto la base? Sì, 3 radiali. Qua è la stessa che ho io. Io sto usando la stessa medesima antenna, capo. No, funziona bene, sì. Prende bene. E come guadagno quanto ha? Beh, dichiarati soliti 3,5 dB, diciamo che forse la mantova, sai, boh, non lo so, più grossa, più spessa, magari rende qualcosina in più, c'è anche più piano di massa, ma lì vedo che i 3 radiali sono sufficienti, e qua io l'ho presa proprio perché è leggera e sottile. Eh sì, sì, la mantova è un pochettino più, più pesantuccia come antenna, ci vuole già un palo serio, dai. No, lì da lui mantova non ne potevamo piazzare con che cosa, e ci vuole il gruppo per tirare sulla mantova. Comunque quella va bene, fa il suo lavoro. Ma qui la danno a 90 euro, può essere? Sì, sì, 80-90 euro costa, anche di meno, eh. Sì, mi ha aperto questa qua, adesso la prima che mi è capitata sotto tiro, dai. Sì, un'ottantina di euro costa. Sì, no, non è molto ingombrante, dai. No, non è ingombrante per niente. È più ingombrante il lavoro che abbiamo fatto. Io lavoro la scala aerea, era così. E l'abbiamo fatta noi la scala aerea, sì. Abbiamo fatto la piramide. Ah, ho sentito che abbiamo ingaggiato lì al circo Togni, così, è vero? Sì, noi a Massimiliano ci hanno ingaggiato, lui dalla finestra, io ho preso la parete. Doppio salto mortale con abitamento e così via, dai. La carità è brava, con le corde, avevamo solo visti qua. Vabbè, dai, per gli amici si fa questo e altro. No, io se prometto una cosa mi faccio in quattro, però devo riuscire a farla, così sono fuori e così sono a lavoro. Se dico si può fare, non che mi dicano, ma no, non dire come stai dicendo tu, no. Si può fare, bisogna stare attenti, farla in questo modo, però si può fare. Io se dico si può fare, si può fare. Va, basta che un minimo di sicurezza, senza rischiare più di tanto, si possono fare. L'abbiamo fatto, vabbè, prima eravamo con qualche anno in meno sulle spalle, oggi dobbiamo stare più attenti. Ah, io già ero a terra, Massimiliano si è un po' più azzardato, là, c'è un nattalino, nattalino anche un po' più sicurezza, con quello che ha dato più forza a tutto il sistema è stato Massimiliano, anche perché è abbastanza robusto, c'ha forte le braccia, quindi aveva il compito più pesante di accompagnare l'antenna sino al punto dell'ancoraggio, capito? 10 metri, insomma, il barichetto ti porta giù, se non c'hai braccia e peso è un casino, Riprendi Marco. E poi Claudio ha fatto la fulcro, capito? Lui teneva Massimiliano, quindi ci ha dovuto mettere forza anche lui a tenerlo. E poi teneva anche gli ultra di fronte, così. Allora, non abbiamo legato l'antenna a terra lassù, dai cosa, fara da una mano. Che è meglio. Poi quando siamo di fronte, quando l'ha vista montata, ha detto, mamma mia quanto è alta, esce anche dal tetto, no? E allora cosa deve rimanere, 30 euro alla gabituria? Oh, yeah. Natalino! No, io tra un po' devo smontare tutto. Oh, stai andando via, che lei ci ho permesso? No, ma prima che faccia buio smonto tutto, là. Perché ho fatto passare il cavo in posti particolari perché è tutto volante. Là. Io smonto, tanto mi fa poco. Io pure, io ho fatto tutta la tirata, non ho manco pranzato. Adesso ceno. Sono sicuro che come si era al divano a guardare la televisione mi addormento. Anche io, fra un po' ceno. Ehi, a tattalì. Ma l'hai visto le mani a Gaganella? Muemo. Hai visto cosa ha detto di un computer? Mi scusasse, dottore, mi scusasse. C'è la password che non mi fa passare, io non passo perché lei non mi fa passare. A chi vuoi raccomandare le cose di Ido? Cazzo, guarda, le lacrime non scendevano, che te vai a rivolto. La password che non mi fa passare e non passo. Aiaia. Dopo non hai fatto vedere più, a porta, che stavano facendo roba da mangiare, era vestito da cuoco, con un cuoco era, Caldarella. A me fa morire, cis. Vabbè. Ok, fra, smonta tutto e io, dai, vado a mangiare. Marco, riprendi. Ehi, sono qua, anch'io sono un po' fuso però, c'ho un po' di mal di testa. E purtroppo sono i possumi di quella roba lì. Se non ne ho voglia non ceno nemmeno, non, francamente, se non ne ho voglia non ceno. Tutto lì, dai. Vabbè che minestrina in brodo leggera, mia roba da pensionati, va bene persino per me. E rimane un po' leggero, Marco, che così almeno ti riprendi prima. Non abusare. E poi c'ho tutta la sera in radio che parlo e c'ho un po' di mal di testa per quello. Se la ricevere parlare. Anche la TV mi dà mal di testa, lo sai. Quando senti sempre musica o parlare, alla fine ti viene mal di testa quando sai questa roba qui. Infatti mi piace stare in silenzio, soprattutto il primo giorno, manco la TV accendo. Figurati, troiaia. E adesso io lo stesso mi faccio qualcosina da mangiare e ti raccampà. Oggi abbiamo faticato. Tutta la costiglia mi fa male. Ma l'hanno a costiglia. Se si montano chi si attaffa tutto il garage in alta luce, tutta la costiglia mi fa male. Aiglia. E un cane da mangiare? No, oh, ancora no. Però è puntato, no, Ghiemi, maledetto, cazzo. Sta lì sotto il tavolo. E chi può mangiare? Me. Ci hanno butti domani. E invece a posto, è tutto a posto. Concetta, tutti noi ce ne appoggio. Tutto a posto da mettere a posto. Cosa, ma ti chiama? Salvio, come si chiama? Ernesto, ma ti chiama? Cesare ti chiama. Ah, Cesare, sì. Oh Marco, tu immaginate che per te è sull'antenna quello che c'è su a Natalino, questo Cesare, mi ha dovuto smontare il coso per stendere. Ah, il filo per stendere? Allora, gliel'ha fatto smontare Natalino. E poi ha detto, va, me lo fai nuovo. Se ne ha fregato tutta la corda, Natalino ce l'ha fatto nuovo. Eia, aggiungo un peggio, dai. Peccato che non è entrato Franco di Sorso, se non si poteva fare il controllo oggi, dai, ma capiterà, dai, un'altra occasione, voglia. Se lavoro Franco, se lavoro Sorso è entrato, ma comunque i controlli sono fatti qua, è fortissimo, è 5 dB più alto di Gianni, 9,30, Gianni 9,25, tu 9,35 quasi. Lo sente Eugenio, sentiamo 7 porta Torres e quindi 7 quasi 7 ad Alghero, va bene, dai. Il lavoro che abbiamo fatto deve rimanere più che soddisfatto. Eia, adesso Natalini devi pagare in natura. In natura. Allora, copiato Natalini. Cosa hai detto? Avete parlato in due. Ha detto Marco che devo pagare in natura, capito là? Adesso ti devi sdebitare con Claudio e con Massimiliano. Cazzo, già la prendo buona già, non è meglio l'asino della Crucca. No, che l'asino della Crucca è una cosa enorme. Mi ha manco le sigarette posso pigliare, due bainda. Mi è stata in alta all'anca, farvi dire così lo vendi. Oh, Natali, mi ha mandato a Cesare Massimiliano. Stai qua. Ha fatto la foto quando veniva a dire un cannau. Manda, manda. Ma non c'è. Non c'è niente, l'antenna era già sopra. Capito? Che altro era per vedere questo Cesare? Un uomo grande. Ah, un altro colpetto io l'ho dato. Un altro colpetto, torra? Yes. Ma dietro? Sopra, leggero, leggero. Bisogna Massimiliano, quando sali qua, apporti, le diamo uno sguardo. Non vorrei che ci sia qualche saldatura fredda, capito? A forza di stare in cucina. Va bene, va bene. Cappa, cappa. Però come radio stai andando bene, alla grande. Già va bene. Ecco, era difettosa, lo sapevi, no? Ti ho detto, usa, se fa qualche difetto avvisami. Tienila così. Però se sali, portala, che le diamo una controllatina. Quella come è rimasta molto ferma, capito? Un casino quella radio. Vabbè, comunque tu falla andare, tienila più accesa possibile. bianconi. No, beh, che le bandiere bianconi, questo non si discute, però nel frattempo il tempo non ci veniamo a far andare e ci accorgiamo quali sono i difetti principali con la radio, capite? Sì, un altro paio di colpetti, perché non partiva. Proprio sopra il coperchio. Sopra, dove ci sono le due vite, là, diciamo, dove c'è il frequenzino, ecco lì, là. Sicuramente lì faccio contatto allora. Sicuramente lì. Avevo schiacciato la portante, si abbassava la luce, solo non usciva. Bene, bene, bene. Già la controlliamo, ma ci Cappa Brioscia, no, io la so acceso, se ancora voi siete in radio, ma comunque, inizio a fare qualcosa qua. Ehi, ehi, ehi, io faccio vedere come sta fanuta. Va bene, tanto diciamo, nuovo, meno 25 che hanno già portato, tutte cose, fra un po' si cena. Ah, sono sparito di nuovo, vero? No, no. Sì, a fine noi. Pavo Moruano, sono sparito, ho vinto? Sì, a buco. Quanto ci rifletto che facevo una volta? Sì, te che devi prendere, io. No, ma la mattina. Thank you. Roberto, pazienza, tutti i diti. Va bene, dai, sì, abbiamo fatto tutto, ma con grande, grande difficoltà, come però ce l'abbiamo fatta, dai. Adesso c'ha il fratello a casa, purtroppo si devono fare i turni là. Oh, si è rovinato con le sue mani il fratello, mamma mia, ma chi gliel'ha fatto fare, me lo chiedo. E vabbè, adesso il danno è fatto e... Vabbè Antonello, riprendi da casa, dai, se riesci a entrare in tempo dai un controllo natalino con antenna sopra, ok? Sì, vabbè. Di certo ha voglia se arriva, ma quello non c'è problema. Bene, bene, lascia vedere. Sì, ho visto questo signore e il muro, caspita, è bello, mamma mia, come vecchia la facciata. Lascia vederla bene. Eia. E vabbè, basta che tengano le staffe e va tutto bene. Cazzo di fare, manco amici di cucchia. Assolutamente tranquillo. Questo mi si è bruciato anche il trappo, la canina facendo i buchi. Figura di buchi. Oh, proprio bruciato. No, no, mi dà un po' buio, guarda quanto ha scaldato. Caspita, ma per bucare cosa, il cantone o il ferro? Il cantone è con la punta da... da 14 di quelle lunghe per muro, quindi è tosto quel muro, non fa mai di sì. Lo so, è cantone, figurati. Ecco qua la foto, sì, i radiali quasi non si vedono, si vede quello che va a destra e quello che va un po' a sinistra verso dietro. Sì, perché in questa luce non risaltano, risaltano quando sono belli illuminati dal sole. Anche a me lo faceva, risultano bianchi bianchi, no, quando li illumina il sole pieno. E poi ho fatto la foto molto, molto alta, su 10 metri, quindi non è da vicino vicino, capito? Se la facevo magari dal palazzo di fronte, allora la vedevi bene, ma comunque già si vede. Passa, ce la vedi. Ancora non è finita. Devo mettere un'altra staffa, anzi usare la staffa che c'è, devo mettere un'altra saetta e poi agganciare la antenna che c'è anche lì. Sì, sì, sono un po' suonatello, sono di testa leggero, ma ha un po' di fastidio, dai, poi già mi butto a letto. C'è un film con Boldi, vabbè, 2 stelle solo, non è un granché, ma non c'è altro. Oppure Bruce Willis su Italia 1, un film d'azione, però azione vuol dire rumoroso, mica un film, non mi voglio sentire rumore. No, il rumore lo faccio domani che c'è Barcellona Juventus. No, ma come, in chiaro a pagamento? No, dovrebbe essere, non so se è canale 5, non so se... Speriamo che sia in chiaro, che... Speriamo. Così facciamo il rumore, forse. Facciamo i botti. Stavo, mi ha fatto vedere i cannoni, Natalino. Marco, che belli. Eia, la Glock in particolare a me piace. Molto belli, sì. Sono belle cose, veramente. Molto belle. E non hai visto tutto, non hai visto la carabina, non hai visto l'altra... corsa. Bella, no, quella pensavo che fosse uguale alla mia, però quella mi ha detto una 17, così è. Quella lunga che hanno i gis dei carabinieri, non ne hanno beretta quelli, quelli c'hanno la Glock. Cazzo è poco precisa, guarda, manco a paragone con la beretta, assolutamente. No, no, ma si vede, no, la mia no, la 321. Il modello anche non recente, recente, diciamo, ho visto, no, belle, belle cose veramente. Mi piace anche l'altra che ho visto, quella che vi fa. E magari un giorno me le fai vedere tutte le. O girami i cracchi, no? E che abbiamo i cani di vedere le cose. E infatti. Poi con calma, già. Un giorno mi fai vedere bene la collezione. Sì, mi volevo comprare l'M4 ma non avevo soldi, cazzo. Quello già mi piace, veramente. Ce l'ha un amico di Alghero, me l'ha fatto provare, anche il Kalashnikov ho provato. Quelle sono belle. No, ma tu non devi pindare nulla, gli affidai. Ora devi punire a banda, perché lì, in quella mensola, capito? Dobbiamo metterci il K. Guarda lì. Adesso l'antenna c'è, adesso ci vuole il K, con i sacrifici, piano piano, senza fretta, tanto il baracchino ce l'hai, è anche bello, e quindi si è arrivato, c'è il ricevitore, c'è tutto. E infatti, adesso l'attacca a quell'antenna del frigorifero, quello là. Se vuoi mettere in quella che è rimasta, ci mettiamo la staffa palo palo e ti rimetti l'antenna a quella della macchina, mia non ce n'è problema, capito? No, me la metto in macchina quella. E se no quella lì te la metti in macchina a posto di quell'altra, che l'avevo recuperata. E quella staffa te l'ho detto cosa ci va. Una X300 si è a posto. Ce l'ho in campagna quella lì. Infatti bisogna andare a bucare a pigliare la risalza roba, quella lì ci vuole, li sapete, qui ci ne buchi tutti i civicacioli, ho visto quell'antenna da pescatore e ci metto l'antenna seria lì. Naturalmente non va tanto bene mi TMR, l'antenna tipo X5000, cioè diventa stretta di banda, più lunga è più stretta di banda. Ma a noi basterebbe anche una X30, mi. Non c'è bisogno di mettere antennoni lunghi, mi. No, ma l'antenna per il PMR ce l'ha, gliel'ho agganciata sotto la, non la vedi che c'è, sotto la 58 c'è l'antenna PMR. No, per le V e per le U, per ascoltare grazie a Dio, capito? Si mette l'antenna adeguata, un altro posto c'è, il cavo ce l'ha. Non l'avevo notato mi che c'era sotto la 58, invece a vedere aspetta il controllo. Sì, sotto i radiali rimane. Capito, a metà del tubo c'è l'antenna PMR. Anche quella esce dal tetto, capito? Ma lo sai che non la vedo qua, non vedo lo stilo proprio. Perché è molto sottile ed era molto in alto l'antenna, ma lo vedo. Poi quando farò le foto le faremo con lo zoom della videocamera, della macchina fotografica, zoom primo piano, così ci vedi tutto. Come no, che fa, vedo io, a te boi, picciti. Come no? Fammi vedere. Sì, che si vede, ingrandisce la foto, come no? La si vede, girata, guarda che si vede. È sotto, sotto l'aggancio dei radiali. Sotto l'aggancio dei radiali. Ma io vedo una cosa luccicare di un po' dietro, ma non credo sia quella, o sì? Sì, quella lì è. Mica è lunga. Da qua non si distingue, queste sono foto da principiante, ci vuole la fotocamera vera. Sì, vabbè, infatti l'ho fatta là sotto, 10 metri, già troppo è uscita così, capito? Ma se ti attento già si vede. Eia, mi fate il curriculum, installazione antenne, anche installazioni impossibili. Anche a livello scimmia. Lui... Ehi, beh, sono scontento, dai. E voi caccia la scala da 9 metri, minchia, invece vedete che volendo, tirando si può fare, certo, vi siete un po' stancati, però è uscito tutto bene. E un capo già sta funzionando le altre cose. Allora vedi che quando è arrivato a Plato io ne avevo già sceso il palo, tutto, cazzo. Avevo già vulcanizzato il pezzo di sotto dell'antenna. Sì, me l'ha detto. Sì, sì, quando siamo arrivati noi aveva già tolto il palo da lì, capito? Eravamo già a metà dell'opera. Mi aveva mandato un messaggio alle 6:30 a Pomponio, l'ho visto solo adesso, ha scritto sono in clausura, mi mancate già, saluto a tutti, capito? Certo, è sempre nell'uomo, devo fare un grande sacrificio. Se già è stato un bel di anni con la madre così, adesso gli tocca pure al fratello, perché non credo che si riprenderà il fratello, non credo che camminerà più, rimarrà così a vita. Purtroppo, io che ti faccio. Vabbè dai, sono 9 signori, io vi saluto, vado a mangiare e poi mi trai un po' perché sono davvero, davvero stanco. Va, ciao Natalia. Ciao Marco, buon proseguo, se proseguite ci sentiamo domani. Buon fine serata a tutti, ciao. Ciao, ciao Cla, anche da parte di mia moglie. Buon tutto. Adesso mi stiamo finendo di cenare e mi guarderò un po' di TV. Ehi Natalia, saluta Concetta, vai, cioè, ci sentiamo, ci vediamo. Se c'è qualche modifica che vedi che è da fare, avvisami, ok? Eia. Eia, ciao Claudio. Buonasera, buon tutto. Io sono un po' suonatello che siamo trasmessi in radio. Quindi mi distendo, mi guardo un po' di TV. Eia, ciao Natalino. Pomponio non è rientrato, sarà stanco anche lui, mi. Gira gira, se ne andrà a letto, mangia qualcosa e va a letto. Vediamo se è entrato in radio. Pomponio? No, non è entrato. Ehi, c'era stanco, mi. Ci ha dovuto fare il turno tutto il giorno, mi. A badare al fratello, figurati. Non c'è anche la sorella lì? Ehi, ma si danno i turni. Forse Pomponio sta la mattina. O la sera, insomma. E la sorella sta la notte lì. Che vuoi che ti dica? Vabbè dai, ci sentiamo domani Marco, che adesso mi cocuburo io che sono stremato. Eia. A domani, buona serata a tutti e buon riposo a tutti. Io, ciao.